Buonasera, questa è una serata importante perché riguarda un grandissimo, Eduardo De Filippo. Eduardo De Filippo è morto il 31 ottobre 1984, quindi da poche settimane sono passati 25 anni. Palco Retropalco, che si occupa ormai da tempo di teatro, non poteva non rendere omaggio al grande De Filippo con questa commedia famosissima in tutto il mondo, Natale in casa Cupiello. Questa edizione è del 1977 ed è a colori. Gli interpreti sono Pupella Maggio, Luca De Filippo e ancora Lina Sastri, Marzio Onorato, Marina Confalone, Marisa Laurito, Antonio Laraina e Luigi Uzzo. Poi ce ne sono anche altri, tutti intorno a Eduardo. Vi dico la verità, che vedere in scena un testo così intenso e un Eduardo insieme a Pupella è una gioia dell'anima, e credetemi, non c'è retorica in queste parole. Natale in casa Cupiello è e rimane e rimarrà per sempre una delle opere di Eduardo che nei secoli testimonierà questo genio del nostro teatro, ma in realtà questo genio dell'Italia. Lo spettacolo sta per cominciare. Nel teatro si spengono le luci. Gli spettatori seduti in platea e nei palchi attendono in silenzio l'apertura del sipario. Il teatro di Eduardo. Natale in casa Cupiello. Tre atti di Eduardo De Filippo. Sono le 9 del mattino del 23 dicembre 1931. Atto primo. Il sipario si apre su una grande stanza da letto avvolta nella penombra. L'arredamento è modesto, gli oggetti stipati uno accanto all'altro. In primo piano un letto matrimoniale. A sinistra, quasi in proscenio, uno più piccolo, per un solo posto. A destra, un comò con uno specchio ricoperto da immagini sacre. In fondo a sinistra, davanti alla finestra socchiusa, un tavolo ospita un presepe in fabbricazione e l'occorrente per realizzarlo. Accanto al letto singolo, un paravento con un treppiedi di ferro con bacinella e secchio. Da una porta sulla destra si sentono i passi di Concetta, una donna minuta, sulla sessantina, la quale entra con passo stanco. La donna indossa una sottana di cotone bianco e ha sulle spalle uno scialletto di lana rosa. Reca in mano una fumante tazza di caffè e nell'altra una brocca d'acqua. Mezza assonnata si avvicina al comò, posa la tazza insieme a un tovagliolo che teneva appoggiato sulla spalla e poi, camminando con fatica e per questo aggrappandosi al bordo del letto matrimoniale, va a mettere la brocca accanto al lavabo, ai piedi del letto singolo. Quindi Concetta va alla finestra e apre le imposte facendo entrare un po' di luce nella stanza. Concetta si sfrega le mani per il freddo e se le porta sotto le ascelle per riscaldarle. Si avvicina al lato del letto matrimoniale che ha lasciato poco prima e dà una veloce sistemata al suo cuscino e al lenzuolo. Passa con fatica nello spazio ridotto tra il letto e il tavolo con il presepe, che la donna maledice con un gesto della mano, non dopo avergli lanciato un'occhiataccia. Si riavvia i capelli e si avvicina al letto singolo. Mentre si piega per rimboccare le coperte, la sagoma di un corpo si muove sotto le lenzuola. Concetta si rialza e si massaggia la schiena dolorante, quindi torna verso il comò. Con la tazzina di caffè in mano, si avvicina al letto matrimoniale e si china sulla figura avvolta nelle coperte. Vari. Vari. Scettate, sono che no. Ugari. Ugari, scettate, sono che no. Ugari. Magari scegli te son che no, te pigli tu caffè, te. Luca si alza a sedere, tirando fuori la testa completamente avvolta in una sciarpa scura. L'uomo, vinto dal sonno, scivola su un fianco. Magari. Oh. Ma bella che son che no. L'uomo si toglie, svolgendoli dalla testa, uno alla volta, due scialletti di lana e una sciarpa. Finalmente appare il suo volto. Ha i capelli spettinati e un foulard colorato al collo. Sbadiglia e si stropiccia gli occhi. Già sono le 9, eccoci. A sera sei prima di andare a letto, che subito si fanno le 9 del giorno dopo. Luca guarda verso la finestra e si copre gli occhi abbagliati dalla luce. C'è, fa freddo fuori. Hai voglia, si gela. Io me ne sono accorto stanotte. La casa è gelata. Non potevo pigliare calimma. Niente, ma si mise due maglie di lana, due maglie di lana. Uscialla, sciarpe, i pedalini di lana, qui c'è. I pedalini di lana che comprasse tu. Ti ricordi, qui c'è? Luca prende gli occhiali dal comodino e si mette a pulirli. Ma tu dicessi che aveva avuto la combinazione. Che era lana pura. Inforca gli occhiali. C'è di ricordo, eh? Luca fissa Concetta che è di spalle al comò. Concetta, ricordo, Concetta. La donna si sta preparando davanti allo specchio. Concetta, ne sei andata. Sto qua, cari, sto qua. No. Parla, che scammarino, mi fai parlare in faccia o muro, che se dai segni di vita. Parla, parla, che ti sento. E per la linea che ho comprato tu, che dicesse che erano di lana pura. Ma lana pura, di lana imbrogliata, è tutta una mistificazione, per carità. Lana pura. La lana pura, quando si lava, si stringe, no? Quello più si lava, più si allarga, si allonga. È diventata due barche. C'è un caffè, eh? Un caffè con un netto pillano. Ti ho portato il caffè. Luca prende la tazzina. Vince, fa freddo fuori, fa freddo. Sì, Lucari, te l'ho detto, fa freddo e basta. Fa freddo. Questo Natale si è presentato come comanda di Dio, quindi, con tutti i sentimenti si è presentato, e lo deve fare, è il mese suo. Luca pulisce la base della tazzina sul piattino e dopo un paio di tentativi beve un sorso di caffè. Allontana la tazzina, si asciuga la bocca con un fazzoletto, sputa, sporgendo la testa fuori dal letto. Mamma mia, Carmelo Concetti, sei immortalata. Si pulisce la bocca. Che bella schifezza di caffè che hai fatto. Non ti faceva la cioccolata. Un pochettino lascia, ma è tutto caffè. Ma perché vuoi dare la colpa al caffè? Che dentro la sta tazza non c'è mai stato. Avvocati, ti sei svegliato spiritoso stamattina, sì? Beato te, beato te. Concente, piglia collera. Tu sei permalosa, sei diventata permalosa. Tu sei una buona madre di famiglia, donna di casa, sai fare tante cose come si deve, sai, c'ha la pasta e fagioli, voglio dire, la pasta e pasilla, la frittata con la cipolla. Sei maestra, tu sei la reginetta della frittata con la cipolla. Lancia un paio di occhiate alla tazzina che tiene ancora in mano. Un caffè non è cosa per te, Conci. E non do piglia. Tu a chi lo affliggere? Non lo pigli, concetto. Non lo pigli. Non lo sai fare. Non lo vuoi fare. Non lo vuoi fare perché tu vuoi risparmiare. Col caffè non si risparmia. Tre le cartuscelle che tieni dalla cucina. Niente tutta cosa, stracci. Si compra il caffè fresco. Che marito. Annusa la tazzina. Questa fete di scarrafuno, cugino. È un tuo pigliato. No, non lo piglio, non me lo piglio. Ma voglio in questo caso, sono pazzo. Non c'è, fa freddo fuori? Mamma mia, sì, carino. Sì, fa freddo, hai capito che fa freddo? Il freddo non l'ho creato io, l'ha creato il Padre Eterno. Perciò ti ha rassegnato, hai capito? Fa freddo, fa freddo. Concetta balla sulle frasi. Sei destra dell'ammazzata ancora. E io morì. Ho domandato se facevo freddo. Che siccome sei aspra, che cos'è? Se come sei diventata aspra. E dici, me l'hai già detto, basta, finisci, hai bisogno di fare sta tarantella in mezzo alla stanza. Allora. Fa freddo, che mi fa? È Natale, fa freddo. Questo Natale si è presentato come comanda è Dio, questo pure l'avete detto. No, questo, pure che? Pure che, stieri. L'avevo già detto, ma che male ci sta. L'avevo già detto. O presente, lo sta, cugino. Ah, sta là, oi, chi te l'ha toccato. Luca, orgoglioso, lo ammira. Quest'anno faccio il più bel presepio di tutti gli altri anni. La sorella del terzo piano mi ha incontrato in mese in scala, che lo fa pure lui quest'anno il presepio. Dice, mi faccio rimanere a bocca aperta, senza frisca. Io ho fatto i progetti, proprio tutti i progetti, il disegno proprio. Già, quello li squagliate, Lucare, io in questo momento mi sono alzata, capite? Se credete che mi devo vestire e scendere a fare la spesa, io mi vesto. Altrimenti, ecco qua, ci mettiamo qua e aspettiamo gli ordini del signor Luca Cupiel, che è comandante. Non l'hai squagliato? No. Ehi, restere che ti dice? Domani mattina, fammi piacere. Scalfa la colla, prima mi fa un caffè. Perché se no non posso lavorare e il presepe non è pronto per domani. Abbiamo capito, andiamo a scarpare subito la colla, se no qua non si ragiona, stamattina mangiamo colla, oi Lucari, ecco qua la colla, andiamo a scarpare, siete serviti a arrivare, noi andiamo a scarpare la colla. Si becca, Concetta, si è fatta vecchia, te si è fatta. Concetta ha preso il barattolo della colla e si è avviata per la sinistra. Va bene, è una, due, tre. Luca scende dal letto e si avvicina alla statua della Madonna sul comò facendo un piccolo inchino. Si fa a tre segni della croce perdendo leggermente l'equilibrio. Poi si avvia verso la sedia. Sta casa gelata. E poi si piglia le catarre. Così si piglia le catarre. Prende i pantaloni lisi e prova a metterli. In piedi, tenendoli con tutte e due le mani, cerca di infilare una alla volta le gambe, ma rischia di perdere l'equilibrio. Vorrebbe sedersi, ma la sedia è gelata. Quindi prende la giacca appesa sullo schienale e vi si siede sopra. Infila la gamba destra. Quindi la sinistra e si alza in piedi. No, non mi è bello, Tommasi. Ma sì, sono che 9, eh? E' il 9, sono il 9 e 1/4. Chiama bello Tommasini, eh? Tommasini, Guarda verso il lettino. Tu è inutile che fingeva di dormire, eh? Io lo so che stai sveglio. Ah, Susi. Prende la tazzina sul comodino e beve. È una zozza proprio. Yamia. Alzi. Si mette in testa il berretto. Andate là, guardate. Guardate si è cosa. Un uccidrullo lungo, lungo, eh. All'età tua è ancora ridolito. Prende la cintura osservando da vicino la fibbia. Io, quando tenevo l'età tua, a quest'ora, fra le 7:30, figurati. Sì, già stavi bene. Accompagnava mio padre, che doveva andare a lavorare. Ehi? Stringe la cintura. Accompagnava fino alla porta, la baciava la mano, perché allora c'era il rispetto per il genitore. Arrivava alla porta, me ne tornava e mi coricava un'altra volta, così. Mi faceva un altro paio d'ore di sonno. Andiamo bello, vado, ma sì, sosti. Ancora tremante per il freddo, si avvia al lavabo. Fa un'anima e coraggio, e come mangi fatti, sosti. Versa l'acqua nella bacinella. Il giorno fa freddo, ma insomma, è meglio che ti sbrighi. Mentre si sfrega le mani, prende una specie di rincorsa guardando la bacinella. Si bagna le mani per poi portarle al viso. Tutti a letto. Si sfila gli occhiali. Si bagna i capelli e si lava le orecchie. Prende l'asciugamano. Tommasi, susa, tu. Si asciuga. Susata. È meglio che andrò a Urizzi, se no ci facciamo la croce a prima mattina. Ah, zuppe latte. E che stiamo a fare, tu? Che stiamo a fare? La zuppa e latte, la cena, la colazione, il pranzo. Ah, susto. La zuppa e latte l'aveva pigliata dentro la cucina perché non tiene i servitori. Se non me la portate dentro il letto, non mi soso. No, tu ti soso. Se no ti faccio acqua con l'ospitale, capito? Abbiamo sbagliato la colpa. I caffetti, tieni, caro da me. Qua, non capisco tu sto proseguo che fai a te. Tempo sprecato. Denaro che se ne va. Non è sa meno buco. Non viene neanche bene. Già, un sapessi che non viene bene. Io facevo, sono stato il padre dei presepi. Quando veniva Natale venivano a chiedere consigli a me. Ma viene lui e dice che non viene bene. E a me non mi piace. Questo lo dice perché vuoi fare il giovane moderno che non ti piace il presepe, ma come il presepe che piace a tutti quanti, che è una cosa commovente. No, qua giovane, no, quello proprio non mi piace. Ma che c'è fa? Non mi piace, e basta. Oh. Susata, hai capito, Susata? Ah, zuppelatta. Alzate, belle mamma. Ebbene, senti, si riporta la zuppelatta lì in duletto quando è certo di stamattina per me la coppa bacia a tutti e due. Per la galera l'hai cresciuto, per la galera. Chi la mossa sosa? Sì, chi lo l'ha. Lei fa un cenno al figlio. Cominciate il telegrafo senza filo e cominciate. Susa, da belle mamma, susa, te lava tanto bella. E mamma ti prepara un bello zuppone. E da fatta. Un zuppone si può salsa su a prima dentro la cucina perché non tiene i servitori. Che è una serva tua madre, eh? È una serva? Tua madre non serve. Pasqualino si è alzato. Sì, si è alzato, che lo scucciante è tuo fratello. Un raffreddore che non è stato capace di stare una settimana a letto. Ah, si è alzato? E sapete se esce? Il signore ha detto che esce, che si va a fare una passeggiata, perché dopo la febbre che ha tenuto, ha pigliato poco d'aria e poi si ritira. E sapete se si veste? Gesù, e che gli esce a nudo? No, voglio dire, sapete se si mette un cappotto? Un buon mese di dicembre esce senza cappotto. Ma perché? Che è stata? No, niente, che adesso. Mi dicesse meglio che non esci, può essere che prenda una ricaduta, no? Raso, Pasqualito, raso. Pasquale entra. Buongiorno, donna Concetta. Pasqua, come ti senti? Meglio, meglio. Un poco debole. Non Pasqua, fa piacere la luce. Ah, sì, scusate, già. Beh, ma ti aspetto, stai bene. Ti pare? Come no, io sono venuto in camera, stava pallido poi... proprio. No, ma poi... fammi sentire un sì. Che la prima cosa... Luca gli tasta il polso. Io non me ne intendo, non lo trovo mai. A lingua, guarda a lingua. Cioè, a lingua sì, no? A lingua la guardo bene. Ah. Stai meglio. Sì. Voglio sentire il tuo fratello, ti devi rinforzare. Mangia carne al sangue, vino russo, e vado a fare una bella passeggiata a parte la caraccia. Come no? Dopo l'influenza, una mezz'ora di aria di mare ti fa bene. E se fa pure una pulizia dentro la stanza che è 7 giorni chiusa, così capì? È una bella pulizia, ti fai da una mano guardaporta. Infatti voglio uscire, arrivo fino al bangalotto. Bravo. Donna Concetta, non ho potuto trovare le mie scarpe. Le già trovano a me? No, non è che le voglio da voi, ma siccome sono stata 7 giorni a letto con la febbre, ho domandato se le avete viste. Tu quando ti corri casa, dove mettiste? Io non l'aveva a mettere, lo guarì. Su tu lì. E vedete bene che là stanno. Non ci sta niente, donna Concetta. Non ci sta niente. Le scarpe sono sparite. Concetta gli fa un gestaccio. Domandatela a Nannillo. Non incominciamo, Nannillo, non Nannillo. Io non ero proprio il tipo che mi vendevo le scarpe tue. Stava venuto le scarpe, Pasqua. Tu che dici? E io come faccio? È ladro matricolato. Ma non mangiano niente, ma non dire. Ma mi deve scarpe di quella scarpa. Ma confessa, allora, confessa. Ma mangio con cosa? Ma non mangiano niente le scarpe di quella. Non mi piace, ho presepia. Non mi piace, chi le parla a bambere, parla a schiove. Poverimmi in questa casa, ogni cosa che succede se la pigliano con me, se la pigliano. Ma ha cominciato a prima mattina. Ah, superato. Ma quando accetta, tipo, ma te la sei indolita. Se per la galera l'hai cresciuto, per la galera. Oh, mamma mia, donna Concetta, e io come esco? Io sono stata 7 giorni a letto con la febbre, quello si vende le mie scarpe, donna Concetta. Pasqua, fammi carità, trovati una camera mobiliata, sì. Dopo Natale te ne vai e non ne parlarmi più, perché io mi vergogno di avere gente in casa con questo delinquente, non posso pigliare responsabilità. Prende le sue scarpe. Voglio dopo Natale te ne compro un altro paio a spesa mia. Se rompono quelle 50-60 lire, l'avrà derubata per me. Sia fatta la volontà di Dio, sia fatta. Ma perché non lo chiudete? Ma perché non veniate? Ma ti dello sorraglio, questo è un delinquente. Ma che aspettate che mamma tenna una notte, sì. Uno si tocco con la febbre e si sono senza scarpe. Perché ti sei venduto le mie scarpe? Avanti, perché hai venduto le scarpe? Io ho ragione, capito, sì o no? Ma come tu vieni le scarpe, hai pure ragione. E ho ragione, ragione. Sentiamo la ragione. Va bene. Sì, signore, confesso, mi sono venduto le scarpe. Piano. Ma perché l'hai venduto? Perché io mi pensavo che zio Pasqualino non si alzava più. Mamma mia, voi lo sentite? Insomma, io aveva morito. No, aveva morito zio Pasquale. Aveva morito, cioè no, non è che aveva morito. Perché sono sfortunato, che è la verità, sono sfortunato. Il medico, quando lo venne a visitare, parlò chiaro, no? Aspetta un momento, il medico ha parlato chiaro con chi, ma che mi si nasconde qui? Pasqua, non ho detto che sei un bruglione bucciardo. Sì, un bruglione. Il medico disse che c'era pericolo, ma nessuno sa niente, no? E allora io che va a fare? Ma c'è venuto pure cappotto, Lucari, tu lo senti? Sta venuto pure cappotto. O cappotto di Pasquale, o cappotto Nucella. Quello col collo di pelliccia, tutto bene. Quello la pelliccia, che la pelliccia Quello con la fodera scozzese. Sì, Pasquale, tu non ne dici. Ho capito. E non nascim. Pasquale si siede. Pasquale, fammi la carità, trovati una camera mobiliata e vattene. Ma trovo, non vi preoccupate, ma trovo, ve lo tolgo il fastidio. Chi lo se venne a roba mia prima che io muore, se venne. Aspetta che muore, poi te la vendi, no? Ma che cosa? Ma chi è lui che dispone? Che significa? Se viene la roba alla casa, che? Oh, padrone, tu sei mio fratello, la roba tua aspetta a me. Ma chi se l'ha da vendere sta roba mia? Chi? Ma mettetevi d'accordo! Misericordia! Io mi trovo in mezzo ai cannibali, mi trovo. E tu sei mio fratello. Tu sei Caino, questo sei. E mai non tengo niente. Non vi illudete, io non tengo niente. E che belli parenti, vi aspetta la morte mia, aspetta. Quando poi la gente parla. Beato voi che state nella casa di vostro fratello. Vi accudiscono, vi vogliono bene. L'avessero a sapere quello che io soffro in questa casa. E quanta pizza che in coppa avanza mi devo dare dalla mattina fino alla sera. Sei contento, eh? Io odio di contrastarmi con mio fratello perché poi si esce all'impossibile. Pasqua, tu sei l'eterno scontento. Io? Sì. Io sono scontento? Sì, sì, signore. Lo dicevo pure la buonanima. Di nostro padre. Se la gente dice che stai in casa e che hai avuto una fortuna a stare con i parenti, mi pare che avrà ragione. Pasquale raggiunge il fratello. Pasquale, parliamo chiaro. Parliamoci chiaro. Pasquale, tu paghi 5 lire al giorno, questa è la grande nota tua. Stai in casa, mangi, dormi, bevi, pranzi, cena, colazione. Mia moglie va a vestire cose, ti fa una guida, ma mica un ragazzo scherzate, Pasquale ci resta male. Ha scherzato! Ma scappa, che ci ha fatto? Che vuoi a me? Insomma, mi volete armare la mano, l'ha già girata, l'ha già scannata. Scusa, abbiate pazienza se il ragazzo si è permessa di manomettere il guardaroba di vostra eccellenza. No, scusate voi se mi sono preso io l'ardire di domandare dove stavano le mie scarpe. Ma figurati, sono io che vi chiedo scusa. Io vi chiedo perdono. Ma io mi inginocchio ai vostri piedi. Ma io mi metto con la faccia per terra davanti a voi. Non mi scassate. Una buona non mi fa mai niente. Trovate una camera mobiliata e state proprio, non mi preoccupate, state buona. E i parenti, che Dio te ne scansa liberi, Ha ragione. Tu venne un cappotto di Pasquale un mese di dicembre, ma... Sussata! Hai capito? Sussata! Un carino, fa pigliare un colpo d'aria. Concecca ci vogliono i colpi di rivoltello. Sussata, belle mamma, sussata, vieni in da cucina e mamma ti prepara un bello zuppone, sussata. È la nemica mia, sì. La nemica della casa, la nemica dei figli. Tommasino decide di alzarsi. Tu sei un bravo giovane, io lo so. Ma per questo carattere selvaggio che tiri ti fai odiare da tutti quanti. Allora, ti vengo un cappotto di Pasquale un mese di dicembre, così è pazzo, il giudizio. Sei un giovanotto, non sei più un ragazzino. A scuola non hai voluto fare niente. Terza elementare, feriti, studi, non ne parliamo più, voglio fare il mestiere. E va bene, fai il mestiere. Ma ti devi interessare, la mattina devi uscire presto, vai a vedere dentro ai negozi, ci stanno sempre i cartellini che dice si cerca commessa, si comincia a fare il commessa e poi piano piano si può diventare anche padrone di negozi, si fa la carriera. Io non sono eterno, caro mio, oramai non posso pensare più a te, ci devi pensare tu. Ma da già fuoco vestito lui. Dopo Natale viene un sarto, ti piglia la misura, ti fai un bel vestito nuovo e ti faccio pure due camicie, perché la tua madre ha detto che queste non si possono salvare più. Il vestito nuovo e due camicie. Tommasino si bagna appena le mani. Qua vengono tutte montagne. Con la neve sopra, le casette piccole, le case piccole perché per la lontananza. E qua viene il cacciatore alla lavandaia, questa è l'osteria e questa è la capanna dove nasce Gesù bambino. Deve nascere il bambino là. Ti piace? No. Beh, certo, si capisce, quello adesso è abbozzato, non si vede niente. Poi quando è finito si può dare il giudizio, è giusto, non si può dire adesso. Tommasino si è vestito. Ti compro pure due cravatte? Due belle cravatte, così quando ti metto un vestito nuovo ti puoi mettere pure una cravatta fresca, nuova, bella. E per Natale ti regalo 5 lire. 5 lire, così fai bella figura con gli amici che te... poi viene una cascata d'acqua. Tutta la cascata d'acqua. Qua tutti i pastori che vengono, il pescatore. E l'acqua che scende dalla montagna, veramente. L'acqua vera faccio scendere. Sì, l'acqua vera. L'acqua vera, si mette l'intero clisma dietro, si apre la chiavetta e scende l'acqua vera. Bussando sulla spalla di Tommasino. Ti piace? No. Il presepio che è una cosa religiosa. Una cosa religiosa con l'intero clisma da dietro? Ma se quello non è finito ancora, come puoi dire non mi piace? Eppure quando è finito non mi piace. Caccia fa, non mi piace e basta. E vattene, capito? Esci di casa mia. In da casa mia non ti voglio vedere più. Ti trovo un mestiere, un lavoro qualunque e campo con i soldi tuoi. Sì, vattene, signori, vai. me ne vado. Ma tu cosa è pazzo? Non mi piace, ma da piacere a forza, ma da piacere. Ma te ne vai? Ma il presepio non mi piace. Ma te ne vai perché in questa casa si fanno i presepi. Sì, signore, me ne vado. Ma mangio prima la suppa e latte e poi me ne vado. Entra Concetta recando una scodella piena di latte e pane. Indossa cappotto e cappello neri, pronta per uscire. Dopo aver appoggiato la ciotola con latte sul comodino, si avvicina al comò e si specchia, mentre Tommasino mangia la zuppa. Lucario, che vuoi mangiare? Cioè, questa è un'altra tortura mattutina. E che tu dica a fare? Io ti dico una cosa, poi ne fai un'altra. E che vuoi fare? Domani hai i giri, oggi ci dobbiamo mantenere leggeri, perché poi vengono tutti questi giorni di festa, si deve mangiare assai. Non ci fanno poco di brodo vegetale, che tu lo fai così bene, con tutte quelle verdure, a radica giallo, sedano, a cipolle, che a me mi piace. Un po' di brodo vegetale ci mini 300 grammi di tubetti. A me i tubetti non mi piacciono. Tu te ne devi andare. Abbiamo deciso che te ne devi andare. Sono tubette che non ti riguardano. E senza frutta, eh? Domani è per santo giorno e saccio solamente chi le dice po'. Questo sono per me per la spesa e 5 lire per te. Te te metti in tasca, ti possono servire per qualche pastore. Sì, a dove metterlo? Guarda. Non ci sto faticando, mettilo qua. Ho già il biglietto da 5 lire sul tavolo del presepe. Tommasino osserva di nascosto. Ecco fatto. Ultima colazione nella casa paterna. Mamma, questo padre snaturato ha avuto il coraggio di cacciarmi da dentro il focolare proprio nel giorno del Santo Natale. Ma so io quello che devo fare. Mi cerco un lavoro. Sì. Mi cerco un lavoro, ma qua non ci vengo più. Che è stato, Nannilla? Che è stato, mamma? Che è stato? Lo saprai che è stato. La tua creatura non la troverai più. Fai conto che la tua creatura non è mai esistita. La tua creatura è sparita. Nannilla! Tommasino se ne va portandosi via il biglietto da 5 lire. Si è pigliata la 5 lire a Cangò. È una croce, è una croce. Nannilla, vieni a casa. Allora, Nannilla, ti è pigliata la 5 lire, vabbè. Basta che te ne vai, questa 5 lire della Bellica, è l'ultima, non ne parliamo più. Che è stato? È ladro. Ma perché ti sei appiccicato? Non lo voglio, quello è ladro di destrezza. Non lo voglio tenere più in casa. Se ne deve andare. Ma che è stato? Deve lavorare. Ma giocavi, ma perché sei? Perché è un vagabondo, non lo voglio vedere. Insomma, se non sapevo che ti sei appiccicato, che è stato? concetta spinge Luca, il quale traballa, perde l'equilibrio e per poco non cade lungo disteso sul presepe. Si riprende in tempo. Concia, mamma faceva che arrivo presepe. Ma che è stato? Ah, lasciatemi in pace, devo lavorare, Concia. Faccia fuoco presepe. Corie, pare che stai facendo la cupola di San Pietro. C'hai buttici quattro pastori in coppa, come vanno qua. Mamma mia. Poco di pace. Pochi tranquilli. Quanto è bella la solitudine. Uè, Ninu. E tu che fai qua? Entra Ninuccia seguita da Concetta preoccupata. Veste un elegante abito invernale. Prende una sedia, la colloca al centro della stanza e siede ingrugnita e torva. Uè, Ninu. Buongiorno, papà. Ninuccia tamburella nervosamente con le dita sulla testiera del letto e sulla gamba accavallata. Luca si avvicina per osservare meglio la figlia, che infastidita si volta dall'altra parte. I due genitori si guardano significativamente. Comincia un dialogo mimato. Luca fa un gesto a Concetta come a dire «è colpa tua». Concetta risponde «colpa mia». «Va bene, sarà come dici tu». «Luca, sempre colpa tua». Poi si morde un dito, si siede sul letto e si rivolge a Ninuccia. «Che è stato?» Hai fatto una volta questione con tuo marito. Insomma, ha voluto venire, ma io... Quello ti vuole tanto bene, vi siete sposati con tanto piacere. Ti tratto come una gran signora, non ti fa mancare niente, ti ha messo quell'appartamento. Quando torno a casa la sera, lui deve stare tranquillo, deve trovare la pace. Come si dice, il sorriso della famiglia. Perché poi tieni i pensieri, tieni le responsabilità di centinaia di operai, capisci? Ninuccia è impassibile. Luca le mette una mano sulla spalla. Perché voi siete appiccicate, perché? Concetta annuisce come a dire io lo so. Perché voi siete appiccicati, eh? Ninuccia non risponde e guarda da un'altra parte. Luca si alza e si rivolge alla moglie indicando la figlia. Questo è un altro capolavoro tuo, il più riuscito. Hai ragione tu, e faccio tutti sti capolavori. Tu non ci un capolavoro, perché? Vedore. Insomma, io non devo sapere niente. Ma che vuoi sapere tu? Che vuoi sapere? Povero Sevio, il povero Sevio. Tu sei la nemica della casa. Certo, la nemica dei figli e la nemica mia. Sì. Ha già fuo presente? Beh, faccio presente. Però se succedono i guai non venite da me, perché se succedono i guai i faccio presente. Mamma va a squagliare la colla che si è fatta freddo. No. E ve lo piangete voi e le vostre anime dannate. Che brutta gente, Gesù. Le due donne parlano sottovoce. Luca tende l'orecchio, ma disarmato di fronte all'impossibilità di comprendere, rinuncia definitivamente. Vedi, fra madre e figlia è un altro linguaggio. Che brutta gente, puzza di tu, balene, Gesù, nemica del proprio sangue. Luca esce. E così, ho già avuto le spalle e me ne sono chiuso. E tu sei pazza. Concetta si alza, controlla che Luca non sia nei paraggi e va a chiudere la porta della stanza. Chi lo muove ne ca? Non ci faccio più. Non mi chiamo tormenta, Gesù. Ti tormenta, figlia mia. Tu dovresti camminare un pochettino più dritta. Io ti sono mamma e tu pozzrisci. Ma perché che faccio? Fai, che fai, Ninu, che fai? Ma non mi facci ferire. Il fatto vero è soltanto che io sono una stupida. Questo sì, faccio solamente chiacchiere. Ha già fatto. E io faccio. Poi, ecco qua. Prende una lettera dalla borsa. Per il signor Nicola Percuco. Urgente. Perché resta lì? Il nostro matrimonio fu un errore. Perdonami. Sono innamorata di Vittorio Elia e fuggo con lui questa sera. Addio, Ninuccio. Mamma mia, e tu facci pazza a quello poveriello? O tu facci pazza? Ninu, ramma sta lettera. Non va lungo, mamma, non va lungo. Ninu, ramma sta lettera. Mamma, non va voglia. Ramma sta. Mamma, non va lungo. Ramma sta. Non va lungo, mamma, non va voglia. Non va voglia. Ramma sta. Sarai pigliata, bella. Concetta, dopo essersi avventata sulla figlia, riesce a strapparle la lettera. Quindi si avvicina al mobile e si rivolge implorante alla statua della Madonna. Madonna mia, addolorata mi, non ti dice la mano a voi, perché non ci faccio, non ci faccio. Si asciuga il viso con un fazzoletto e si rivolge alla figlia. Ebbene, no, si dice nata fatta che le chiedete. Sfoggiami di un mio piriccio. Hai capito? Che le tue marito, mamma? Chi è marito? Quando tu non volevi bene, ci pensavo prima. Io non volevo. Voi mi volevi stare a forza. E mo' è fatta e non c'è più rimedio. Ehi, me ne scappa. Ehi! Ehi, ti butto una cosa in faccia. E a chi aspettate? Perché non lo facessi? Chiamo! Uccidetemi pure! Ma perché? Perché sono stata così disgraziata? Perché? Disgraziata? Oh, mamma mia! Tu hai voluto che la sorta, mamma. Però ricordate, Rietta, che non so più scemo come una volta. Voi adesso non potete fare di me tutto quello che volete. I nervi sono nervi, mamma, e io non li controllo più. Mamma, mamma, è come stonco, ma che nervi, Renuccia! Scazza tutte cose, scazza! Un oggetto dal comodino, un vaso, la sedia e il presepe in costruzione. Io sento appato. Siete contenti, po'? Sì. È contento, mamma? Si siede. Rientra Luca tutto compreso nel rimescolare lentamente la colla sciolta nel barattolo. Guarda per terra. Che è stato il candele? Che oh, niente, Luca, niente, non è stato niente. Come niente? Capare casa amici, il candele. Guarda il tavolo. Oh, per esempio, cioè. Chi ha scassato, per esempio? È stata tua figlia, hai pigliato il conto a te. Ma c'è pigliato con mia figlia, con mia figlia, ma c'è pigliato con donna Concetta. Nata, Concetta, tu sei la nemica della casa, la nemica mia. Questi sono i frutti che hai raccolto, questa è l'educazione che hai dato ai figli, ma io mi sono scocciato, Concetta, per il cieco, per la vacca, me ne vado dalla casa. Mi metto un cappottello e mi riscego, mi vado in coppa alla montagna, vado a fare il romito. Beh, Lucarie, sentiamo buono, sentiamo buono quello che ti dico, perché già faccio tu, hai capito, con te, con tuo figlio, tuo fratello. O vieni che il balcone, Lucarie, o vieni. Ma esce un balcone mio, sei andato. Bravo, guardalo buono, perché io non ordine chi sto, sai che faccio? La ra, e metto la coppa a pace. Perché non ce la faccio più, Lucario! Non ce la faccio più! Non ce la faccio più con te, con figlio tuo. Concetta ha un mancamento. Aiutatemi! Mamma! Cade a terra. È morta mia moglie. Mamma mia, bella. È morta mia moglie. Mamma! Cos'è? Aspetta, che c'è. Oh, cugino, che sono cugino, loro. Chiama, mamma. È morto mio amore. Ma non fa male, grazie. Fascali, è morto moglie. Tu che stai dicendo? Sta morendo. Tu che stai dicendo? Ma non sta verso prima. Sì. Accende le candele, sì, alla Vergine, vai in da cucina, piglia la bottiglia con la cena, vai. Non ti preoccupare, che cose niente. Non c'è, parla. Mamma. Non so, mamma, cos'è? Apri gli occhi, cos'è? Concia, parla, fa un discorso. Ecco la cita. Che sta cita, te? Sì, appiccia il cannello a mano. Sì. Tutte le candele, manda fare, ragazzi. Devo fare il miracolo. Per concetto, tutte le candele. Le mette l'aceto sotto il naso. Concia. Sta meglio. Pasqua, studio, sta meglio. Studio, Pasqua, ti ho detto studio, sta meglio. Studio il cannello. Donna Concetta. Donna Concetta, ma che è successo? Niente. È inutile che domando, non si possa sapere. Niente. Lugarino, tuo figlio si è rubato pure il fratello. Ma scapite da 5 amici. Ma come si deve fare con quel ragazzo? Io non lo so. Ti devi trovare una camera mobiliata e te ne devi andare, perché mi sono scocciato. Sì, non voglio responsabilità. Me ne vado. No, dopo Natale. Fai Natale e te ne vado. Concetta è distesa al letto. Come ti senti, cugino? Meglio. No, ma... Meglio, meglio. Mostra meglio, mo, eh. A mi so colore in faccia, mi. Cioè, tu non mi fa mettere paura a me, capì? Mi mette paura. E con me è fatto brutto, eh. Da voi in sei figli, non è diretti che sei figli, che sono irriconoscenti. A un certo punto, qualunque sacrificio, non lo riconoscono, spariscono, se ne vanno. Non c'è cosa sembra rimasti a te solamente. Tu la pensi a me e io a te. Luca si emoziona. Con c'è si tumore, muore pure io. Hai capito? E c'è che fa? Si asciuga la lacrima. Ma mette da fuoco presepio, no, da voi, eh? Papà, avevo pensato presepio. State vicino a mamma, sì, devo aprire io la porta. Che sei capace che si senta male, no, da voi. Luca si toglie il berretto e si rivolge alla Madonna. Grazie. C'è che fa? Mamma. Mamma. Come fa a morire a me, poverella? Ma come vai a scrivere quella lettera? Tu lo sai che tuo marito è un uomo positivo. Che si sa una cosa simile a mamma. Che la taccia. Hai capito che taccia, mamma? Mamma, giurami che quella lettera non la manderai. Che farai pace con tuo marito e che fornisce tutta cosa. Ma giura, mamma. Buongiorno, mamma. Ninuccia le dà un bacio sulla fronte. Grazie, figlia. Grazie, Nicoli, grazie. E che buon sapere, che buon sapere. Stavo morendo mia moglie. Voi che dite? C'hai mai visto perso mia mamma. Buongiorno, mamma. Buongiorno. Ma che donna, la pressione è bassa, non gira mendica. Non mangia, questa mangia come un uccellino. E cura non ne può fare. Anche i dispiaceri. È arrivata Ninuccia tutta turbata. Io ho capito che eravate contrastati, ma non ci potuto sapere la ragione. Ma che sta? Ma perché così da appiccicato? Perché? No, niente. Niente. Permesso? Permettici. Scusa. I due uomini si appartano. Sacre, quella mia moglie mi mantiene all'oscuro. Perché sennò i dispiaceri mi fanno male, lo fa per bene, sai come sono le donne. Ma fra uomini potiamo parlare, Perché vi siete appiccicati? No, niente. Niente. Ma insomma, ma fallo. Dobbiamo fare storie come se fossimo lui innamorati. Io sono un gnomo, sei. Con la camicia fuori. Ma che è stato un malinteso. Facita pace. Ma io per me sono pronta, che lei se che non ha potuto capire nessuna maniera. Dalla porta di casa sbuca la testa di Tommasino. Sì. Siamo tornati, vero? È finita la superbia. Faccio prima Natale e poi me ne vado. Hai capito? Caro Nicolì, i figli sono gioia e dolore. Il loro mascolo è peggio della femmina. Ma è buono sapere. Femmina poi c'è avuto anche colpa io. Figlia femmina, prima figlia. E poi, quello che è costato questa qua. Quando ero piccolo che è stato malato, che la stavo mo perdendo, ti ricordi? Poi lo studio. Perché che sta studiato, quello là è alfabetico, che non ne parlava prima, che se no, questo quando apre la bocca parla, leggeva libri, guarda romanzi, il romanziere, poi ti presentasti tu, la domanda di matrimonio, fidanzamento, il colpo di grazia. Addirittura, papà. E che si arriva a sposare un delinquente? No, Nicolì, ti voglio bene. Ho avuto una fortuna con te. Ma siccome, sai, tu dici sì, io ho già comprato l'appartamento per il matrimonio. Noi volevamo fare una casa, stare insieme. Lo so, papà, ma come si facevi? I rapporti con gli altri commercianti, le relazioni. Voi siete giovani, dovete ricevere la gioventù come voi, che sì, ma pensa. Penso un padre Un padre che si vede togliere la figlia febbra a ridda la cosa. Io quando ci penso. Dà un bacio alla figlia. Devo dire sposare che lei te faceva una statua d'oro, te faceva. Io poi mi sposava isso. No, che c'è, se tu eri femmina. E non mi sposavo. E io mi sposavo a te. Sì. Si poco frisco tutto a tu, io. Ma non ho la retta, ma non ti voglio. Non ti voglio ancora. No, no, che cosa? Non ti voglio ancora, ma che c'è? Io dico, se tu eri femmina, sei femmina tu, non sei femmina. Allora, se tu eri femmina, io come padre, che sta in casa e che comanda, perché il padre comanda, io ti dicevi sposo da Nicolino, tu dovevi sposare. Niente affatto, io vi avrebbe risposto non mi piace. Quello mi deve contraddire, pure con le cose impossibili. È il carattere. Andiamo, fate pace, fate pace, sì. Fate pace. Nicolina che ha aperto la foro. Guardate. Ah, pazienza, papà. Nicolino esce. Ma che educazione, che gli faccio capace. Ma che Nicolino che ha aperto la foro. E chi teneva aperto la foro? Zitta, sei educata, scostumata. Si chiama in disparte, dice, senta, lei c'ha la fettola da fuori. Ma già da pazienza, mamma. Non date pazienza, Puglia. Rientra Nicolino. Fate pace, Minuccia esce. Fate pace, fate pace. Questo non per dire. Domani mia moglie ha preparato un pranzo, non ci manco nulla. Io pure ho ordinato 4 belle aragoste stasera per manne. Ma scendo perché ha fatto poche spese. Ma spese, sì, è stato poco bene. Ma scendo io. Ma niente affatto, adesso scendo io e va mandato cose per un giorno. Bravo. Però non esagerare, tu sei generoso. Noi ci vogliamo mantenere lì giro. Un poco di brodo vegetale, che le Ninucce conosce le verdure che ci vogliono, te lo dice lei. E c'è 300 grammi, ma ci sta pure voglio uno, là, 500 grammi di petto. No, ma che da fa questo brodo vegetale? Ma va mania una bella gallina. Il brodo di gallina è sostanzioso, ma a me mi piace assai il brodo vegetale, ce l'aveva detto pure a concetto. Brodo vegetale è 500 grammi di tubetta. Ma niente affatto, voi vi dovete sostenere. Mova mania, una bella gallina. Tu manna la gallina, ma io mi faccio un brodo vegetale. Lucarella accompagna. Noi ce ne abbiamo, Salve, papà. Arrivederci, papà. Sulla porta Luca trattiene Nicolino. Nicolino, ci deve avere pazienza. Io non so perché vi siete contrastati, perché che la mia moglie non mi fa sapere, ma capisco che la ragione sta dalla parte tua, che tu sei un uomo serio, e quella è sponduta, è dispettosa, l'ultima parola deve essere sua, è rispostera quella là. Cioè, quella è la luce degli occhi miei. Io devo sapere che quando non esisto più io, non esisto perché sono morto, diciamo, allora io devo sapere che mia figlia resta in mano a un uomo che va bene, che la stimi, ci fa una guida come un fratello maggiore, cioè, ma sennò io muoio dannato, capisci? Papà, ma io a Ninuccia voglio tanto bene. Io sai, tu sei un grande galantuomo. Luca gli bacia la mano. Grazie, dico. Ma grazie. Ci mancherebbe, papà, sono io che vi devo baciare la mano. Non ho fatto, no, siccome io so che ti dà dispiacere, allora ti sono riconoscente. No, non lo posso permettere. Nicolì, lascia. Assolutamente. Lascia, Nicolì. Se ne caro cazzoni, capito? Scusate, papà. Papà sì. Arrivederci. A te pure, che mi ha distrutto mezza casa. E vabbè, ma facete una nutarella, ma facete sapere quant'è. No, nutarella, questa roba vecchia, è meglio che si è rotta. Arrivederci, papà. State buone. Raccoglie i cocci. Ecco, che peccato. Ecco. Trova la lettera di Ninuccia. Nicolino? Dite, papà. Questa lettera, questa deve essere roba tua, è caduta a te, certo. Grazie assai, a domani sera. Facciamo una bella vigilia in grazia di Dio. Ma metto da fuori, per esempio, cominciamo da capo tutto. Luca si avvia al presepe danneggiato sistemandosi i pantaloni. Mentre Tommasino, assente completamente a tutto ciò che gli è intorno, ha costruito una semplice marionetta di Pulcinella e ora ne muove le braccia in alto e in basso tirando una cordicella alla base. Luca lo osserva facendo una smorfia di disapprovazione. Poi con il martello si accinge al lavoro. Lentamente si chiude il sipario. Fine del primo atto. Atto secondo. Si apre il sipario. Sala da pranzo di casa Cupiello. Concetta siede al tavolo al centro della stanza. Stacca le cime dai broccoli mentre conversa con Raffaele, il portiere. Raffaele, ma credito, mi è venuto proprio lo sconforto. Ma che ti ci da fare? Io saggio tutte cose. Ma che hai da sapere? Che hai da sapere? O ce l'ha destinata e mi ha castigata con un marito che non ha voluto fare mai niente. In 25 anni di matrimonio mi ha rovinato una casa. E che so più quella di una volta io, E se non era per me, sapete quanti volte sta casa posseduta sotto in coppa? Lui aveva la nascita con cazzone. Vai dritto una cosa buona, ori. Ma io con mia moglie sempre che starì. La signora in coppa aveva nascita con cazzone. Ma guardate se è possibile, guardate là, guardate, che un uomo a quell'età deve fare ancora il presepio. Sogno di per la ricerca nei lugari, ma tu sto presepio che fai a fa? Voi capirete, noi non abbiamo bambini, ma pare una spesa è un bel di tempo inutile. Sapete che cosa mi ha risposto? Lo faccio per me, ci voglio scherzare io. Che ne volete sperare? Beh, adesso è sceso, è andato a comprare certi pastori che si sono rotti. Voi potesse per stare in da pace il lancio. La figlia vostra si è sistemata bene. Solo Tommasino faranno pochi fastidi. Ma fosse tutto perché lo guaglione si capisce. E giovanotte fa qualche pazzaria, sì signore, d'accordo, ma è l'età. E l'età tutto è perdonabile. Raffaello, mio bello, qua vai, più grosso in sta casa è uno solo. È mio marito. Ci vuoi pazienza? E la figlia vostra fa Natale con voi? E come no. Vedete che più tardi viene lei con suo marito. Ah, perciò andando, ecco saluto. Una concia. Siete rimasti contenti dei capitoni? Sì, non Raffaele, la verità è bella assai. A me mi fanno schifo, sì. Ma a Lucariello le piace, e ce l'ha a catti, che già fa? Beh, tanti auguri, Grazie. No, io me ne scengo perché sto palazzo su. Se mi volete mi chiamate. Di nuovo auguri. E buon Natale, da c'è. E non bastano, questa è una storia che da per lì. Mamma, sono stancato. Che è stata, un Bascali, che è stata? E che da essere, Ronna Cuncè? C'ha da essere. È sparita un'altra 5 lire. Ma che vaga a rubarla? Io per guadagnare 5 lire devo cecare una settimana intera a fare un rindo bancalotto. Proprio così. E che porcheria è questa? Ma stavolta lo trovo, Mariuolo. Lo trovo. Perché ieri sera ho fatto un segno su tutti i soldi. Si trova a 5 lire che la croce in coppa. Ma faccio attaccare a pazzo. Ma scaggiate pazienza, ma chi volete che sa pigliava sta 5 lire a vostra? Chi sta sull'osservazione che fa Nannilla? Ma cominciamo con Nannilla. Perché Nannilla era una rinda a casa. Non è top. Donna Concia, quello è un brigante. Ma io non capisco, voi lo difendete pure. Ma papà, io sono così, è figlio a mio fratello o pozzo pure male? È questione che più di una volta la giungucciata che Manella d'indoggi le viglio. Ma buon chilo guaglione, ma trovano qualche pezzo di spago per pazzi o strummala. Perché a ieri non ha confessato che si aveva rubato i scarpe e un cappotto? Quella è stata una combinazione. Me la chiamate combinazione? Vabbè, non basca come volete voi, vabbè. No, donna Concia, come volete voi, ecco, come volete voi. Trasa, Vittò, trasa. Ah, oh, il log, sto bello mobile, oi. Vieni. Te ne stai un altro poco con me e poi te ne vai, eh. Buonasera. Mamma, qua sta Vittorio, l'amico mio. Mi fa tanto piacere. Si basca lì, buonasera. Buonasera, don Tommasino, buonasera. Auguri e buon Natale. Grazie, pure a voi. E vi pare, grazie di te. Voi siete il mio nipote prediletto. Siete un bravo giovane e vi meritate tutte le fortune. Perciò auguri e buon Natale. Tu devi pigliare 5 lire sopra colonnetta mia, non negare. Io? Quando mai? Ho sputato 5 lire d'indosso di Natale. Io non mangio pigliato niente. Ah, oh, ma so cose pazze. So cose pazze che devo essere offeso davanti agli amici. Tommasino va ad abbracciare la madre. Mamma, la ricetta che mi ha gemigliato, 5 lire mi ha gemigliato, mamma. Guarda, guarda, quello frugo nelle tasche della madre. È inutile che vai a guaglio, sa, posa 5 lire. Pasca, mamma pare che potessi mandarmi. Ma facci di tagliare che lacrima sta creatura, scioscia mamma, scioscia. E solo tua madre si può commuovere a questo pianto di sciacallo. Il ragazzo si volge minaccioso verso lo zio. Beh, sì. Chissà qua volte che sta. È notte. Venghi in da camera tua. E tappe. Ne capita? Tappenna. Vuoi quello minaccia pure? Io sono il fratello di tuo padre, portami rispetti, capite? E mo che bene la riga tutta cosa. Sputala 5 lire! Ma che ti sputa, non la tenda! Ma sta io t'avrebbero in da camera vostra! Donna Concia, io ho già fatto la camera, spingola, spingola! È sotto lì, ecco, sotto lì, avete visto? Sotto lì. Sì, ho guardato, non ci sta niente, credetevi, donna Concia, non c'è niente! Ma vi voglio fare contento, va gabbrinata voto, io! Le mie mobili vicino pure, No! No! No, però ci andiamo insieme. Sì, perché se trovo la 5 lire dico che non l'ho trovata, Non lo so, ma io devo stare presente. E beh, guarda, e se si trova la 5 lire? Beh, ti giuro un coppa all'anima santa, mamma. Gesù! Ma... quella è viva che lo dice sull'anima santa. Ma perché solamente i morti tengono l'anima? Aspetta, ti giuro un coppa all'anima viva santa di mia madre. Mi metti in mano a un avvocato. Incrocia le braccia. E io ti faccio un giuramento sacro. Un giuramento che non ho mai fatto nella mia vita. Sienta, io ti giuro sul direttore del bancolotto di Napoli che se non si trova la 5 lire io ti faccio passare Natale o pronto soccorso, hai capito? E muovo rimmo. Permetti, mamma. Mamma, permetti. Escono. Parla Vittorio. Onna Concè, ho fatto proprio male a salire. Concetta apparecchia la tavola. Dai. Perché più tardi qua viene mia figlia col marito e lui non ci vuole in dusso casa là. Ma perché? Perché? Concetta sta attenta che nessuno ascolti. E non faci tu scemo. E badate che il marito sa tutto. Per causa di una lettera che Lucariella, senza sapere niente, ha consegnato nelle sue mani. Saggio solamente che lui c'è voluto per far pace a tutti e due. Si asciuga le lacrime con un tovagliolo. Le lacrime mie, solo le lacrime. Si allontana con il fazzoletto sul viso. Vittorio appare commosso. Si accosta alla donna. Onna Concè, io a vostra figlia voglio bene. E potete bacio come mia figlia fosse zitella. Quella è maritata. O volete capire che è maritato, no? Ma voi anche volete un guaià? A chi? E ringraziate a te che sono sola. Perché a mio figlio è che lei non capisce niente. Mio marito è come se non lo tenesse, perché a questo roperito si tenesse una donna vicina. Questa storia sarebbe finita da un pezzo. Concetta si allontana avviandosi alla credenza. E vabbè, donna Concè, non va amareggiata. Ma una vacca. Vittorio lentamente si avvia, ma si ferma davanti alla porta guardando Concetta. Decide di ritornare dalla donna. Ma voi non sapete quello che stiamo soffrendo, è vostra figlia. Da dove? Non lo vo bene, marito. Non lo vo bene. E vi prego di uscire subito da questa casa, per cattiva. Non ce l'avete a mettere più, hai capito? Concetta lo spinge verso l'uscita, ma ritorna allarmata. Gli fa dei segni incomprensibili. È preoccupata. In cappotto e cappello appare Luca che non si accorge di Vittorio. Devi uscire. Io no, Lucarini, no. No? No. E perché hai aperto la porta? E ha girato la porta perché mi pensavo che tu avevi tozzoliato. No, io non ho tozzoliato. Perché hai aperto la porta? Te sto dicendo perché mi credeva che tu avevi bussato. Hai pensato che io arrivavo? Hai aperto la porta e io sono arrivato veramente. Telepatia. Telepatia. Sai che significa telepatia? No. A me mi hanno spiegato. Quando io non busso e tu apri la porta. Questo è... Vede Vittorio. Chi è? È un amico di Tommasino, sono Stevienna. Arrivederci e tanti auguri anche alla famiglia. Ah, spiego, ma sono arrivati io. Siete amico di mio figlio. Lo vedo spesso. Bravo, Luca Cupello. Vittorio Elia. Si stringono la mano. Elia. Elia. Mi fa piacere che mio figlio degli amici anche signorina. Si vede, sta bene. Signore. E io ce lo dico sempre a mio figlio di scegliere l'amicizia, che alle volte un cattivo compagno può guastare la pianta giovane. Ah, avete ragione. Arrivederci, tanti auguri di buona fine e buon capodanno. Aspetta, stiamo parlando. Mi pare che non vuoi cacciò. Una tazza di caffè, ce l'hai offerto una tazza di caffè? No, non ha voluto niente. Un dolce, no. Sì, una pasta reale. Meglio di no, grazie. Dolce di Natale. No. Grazie. Il presepio l'avete visto? No, veramente no. No. Luca si rivolge a Concetta. Ci hai fatto venire, eh? Magari. Io volessi sapere che ci hai fatto a fare sto presepio. Beh, guardate. No, mettetelo lontano per il colpo d'occhio che io vi faccio vedere. Scusate. Una, due. Altri. Bello. Hai visto? Molto bello. Sì. Ha acceso le luci. Visitate. Questo è il laghetto. Vedete, tutto il laghetto col pescatore, poi ci sta la grotta dove è nato il bambino Gesù. Nasce a mezzanotte, naturalmente. Qua c'è l'osteria, tutta la pecorella. Questo se vanno via a Natale, se non faccio il presepe come fosse un cattivo augurio, abituato che mio padre lo faceva per me quando ero piccolo, per la famiglia, poi l'ho fatto io per i figli miei, ma quando faccio il presepe come se tenesse ancora tutta la famiglia via vicina, capite? Bravo. Grazie. E quest'erba? Indica il presepe. Qual è? L'erba. Ah, no, l'evera. Tutta quest'erba. L'evera, sì. Pure l'avete messa voi? Sì, io sono. Bravo. Sì. Bravo. Sì. Dopo un momento di imbarazzo, Luca si rivolge in disparte a Concetta. Cioè, io si pare che mi sfrutto. E si capisce. Io scasso il piatto in faccia, come se non me lo vengo. Ma non vi piace? Né? No, perché se non vi piace lo potete dire francamente. Non mi piace, non è che vi devo piacere per forza. Poi non lo faccio solo io, il presepe, in tutte le case per bene. Quando viene Natale si fa il presepe, non vi pare? Sì. È bello il presepe. È bello. Ma sono andato a comprare i remaggi. Perché quando ho preso tutto il materiale per cominciare a fare il presepe, perché tengo tutto conservato, sennò ogni anno c'è troppa spesa, ci pigliate la scatola di posture, ma sono andato a vedere, c'era un remaggio con la capa rotta. Peccato. No, mi è dispiaciuto tanto, ma quello è un antico, capite? Ma che ci ho fatto? Quello che ho comprato sono pure buono. Sì. Ne ho comprato tutti e tre nuove, se no sembrava brutto, un re nuovo e due. Ce l'ho cambiato tutti e tre. Non fa niente. Sono andato a San Biagio dei Librai, l'ho scelto in mezzo a centinaia di pasture, facevo un freddo, ma io, come si dice, mi sono... guardate, questo è Gaspare, vedete? Gaspare. Melchiorro, questo è Melchiorro, la schiava, quello nero, vedete? E Baldassarre, che portavano i regali al bambino Gesù, ora incenso e mirra. Guardate, ma vedete come sono fatta bene, guardate le faccine. Bellissimi. E questi pure li avete scelti voi? Sì, io l'ho scelto io. Bravo. Bravo. Luca, offeso, rimette i remagi nel pacchetto. Voi siete amico di mio figlio, è vero? Capite? Vabbè, va, va. Oggi pazienza, figlio tuo paletto. Concetta lo aiuta a togliersi il cappotto. Un fazzoletto, sì. Un fazzoletto, stai in da sacco. Ti non mando il cappotto. La coppola, te. La coppola che fa frischetta. Luca indossa la coppola. Oui. Ninuccio con marito, il blu. Non ancora. No. Quella Movina, Movina, l'altra figlia mia maritata. Sì, l'altra figlia mia che è femmina e si è maritata, allora in casa non c'è più, diciamo. Quando viene Natale, Pasqua, queste feste ricordevole, diciamo, religiose, allora, sai, c'è Capodanno, allora ci riuniamo. Permesso, scusa. Luca, non riuscendo a pronunciare la frase, si allontana. Aiutandosi con un gesto della mano, come a voler racchiudere la parola, ripete mentalmente la pronuncia corretta. Quindi, compiaciuto, ritorna da Vittorio. Mia figlia non abita con noi. No? No, quella sta col marito, quella sposata Nicolino per cuoco, ha avuto quella sorte, una fortuna, fabbricante di bottone, questi, fabbrichi, io non so di bottone, questi qua, fabbrichi di bottone, tutta roba di osso, diciamo, spazzola, garza scarpe, maniche di bastone, scoperte. Però il suo guadagno sono i bottoni, perché è una ditta antica, conosciuta, se la reclama dentro di tram pure per cuoco, la ditta, se, la mise che l'appartamento, ma con c'è, Sì, è bella, bella, assai bella. Ma quella è una sorta. Quando io vado a mangiare da mia figlia, quello mi invita sempre, morirebbe sempre a casa, si dico. Non fammo piacere, se fa piacere, fammo mangiare da cucina, in cucina, perché là è Ariosi, c'è sta una veranda che si vede in mare, io mi metto là, coppa una tavoletta, e lo saluto. Quanto è bello lo saluto. Stupendo. Bello, ci stanno mobili, ogni mobile è un pezzo d'opera. Argentarina, porcellana, tappeti buttate per terra, quello compro sempre, così mese e mese non ci vediamo, perché io pure lavoro, ma perché sono queste feste, siamo a riposo, sennò la mattina, quello mia moglie, 7:30 porto il caffè, una tazza di caffè alla mattina, non sa quando riesce bene. Il mio figlio poi salta come un grillo dal letto e alle 8:15 massimo io mi trovo alla tipografia. Tipografo? No, sto alla tipografia. È il posto che c'aveva la buon'anima di mio padre, uomo di fiducia, uomo di fiducia. Che, mio padre è uomo là, tutto consegnavano a lui, quando è morto, certo dovevo morire, dobbiamo morire tutti quanti, a Bonanno, il proprietario della tipografia, il posto lo devi avere tu, che sei il figlio di quell'uomo di fiducia, perché avete una soddisfazione davanti a tutte le maestranze, dicevo, ecco, figlio del nostro uomo di fiducia, adesso è lui, perché sono di fiducia, tutto è una famiglia, io mi ricordo mo come disse sono razza di fiducia, razza, bella, mi ha detto chiave, Con c'è fabbricchia. Ma... c'è faccio per affare, sono che chiave nei negozi e sapete che lì grosso. Sì, quelle chiave grandi. Come? Una responsabilità, io la sera chiudo, la mattina l'apro, sennò come entrano, capite? E così mese e mese non ci vediamo. Ecco che quando viene Natale, Pasqua, queste feste ricordevole, Capodanno. Luca è in difficoltà. Vengono e mangiamo insieme. C'è un imme e mangiamo. Tommasino è venuto. Sì, sì, è venuto, sta dentro con tuo fratello, il quale ha detto che ha perduto 5 lire e se l'ha pigliata nonnello nostro. Come fosse la novità. Qua il denaro sparisce come l'acqua. Diglielo voi a Tommasino, facetemi un favore. Quello magari un amico lo sta a sentire e alla famiglia no. Ma ho fatto un accorgimento. Se io un goccio o faccio famarenne, perché ladro no. Come vedi non si è trovata. Io sono innocente. Poi vediamo se sei innocente, non ti preoccupare. Ah, qua sta tuo padre. Scusate un momento, abbiate pazienza. Lucari, chi sto io? Sa pigliate 5 lire. No, non mangio pigliato niente, non mangio pigliato. Te pigliate 5 lire. Pasqua, tu hai torto. Come ho torto? Sì. Sì, perché non puoi accusare senza avere la prova. Già. Lo dice a me, io ti do la soluzione. Giusto, hai ragione. Ho visto, statevi presente perché io lo devo mortificare davanti all'amico suo. Vieni qua, te da linguaggio, vieni qua. Tommasino, crucciato, si avvicina al padre. Mamma. Vieni. Ma vedete, se debbo essere trattato come un ladro, debbo essere trattato. Ah, da volte fai un galantone. Luca gli rovista nelle tasche. Da una tira fuori un fazzoletto rosso. Da un'altra una lunga cordicella che sembra non finire mai. Ma che fai, sacici? Si punge con la punta di una piccola trottola. Si mette il dito in bocca per succhiare il sangue. Che tieni da sacco? Strummolo. Strummolo. Guardate. Luca continua a cercare. Finalmente trova il biglietto da 5 lire che avvicina al volto di Tommasino. Bella figura che fai davanti all'amico. Fa la figura del ladro. Tommasino ha lo sguardo basso per la vergogna. Ti piace un presepio? È in lotta con se stesso. Ma poi decide e afferma con fierezza. No. E si allontana. Qua sta a 5 lire. Io sapevo, lo sapevo. Eccola qua. Sei ladro matricolato, questa sera. Ma non mi piace. Ma hai perduto 5 lire. Ecco la croce. Hai canna la croce. Il segno di croce che ci ho fatto io sulla 5 lire. Dove siamo arrivati si deve segnare il denaro. Ladro. Se chi ci ha fatto un segno non puoi negare più. Luca osserva il biglietto da vicino. Qualcosa non lo convince. Ecco. Lucari. Lucari. Qua c'è sta la stella che ci feci. Dove? Qua, oh, mamma mia. Ecco la stessa sorda mia. Allora tu roba a me e io roba a te. Ma aspetta un momento. Ma come un momento? Io siccome vedevo che il denaro spariva, ci faceva tutto segno, mi ha detto coppo, come proprio a vista, certo, così lo trovo il ladro. Ecco me si deve. Ma sarà stata una coincidenza. Tu ci hai fatto la stella. E ci ha giù fatto. A posto. Ha avuto la roccia tra le piglia. Se stai sordo mio, Pasqua, e Dio sa. Ma non posso dire niente. Non ti prego. Lo voglio dire, qua. Così. Va bene. È Natale, va. È Natale, non ne parliamo più. Non lo fare più. Non lo facciamo più. Beh. Io me ne vado, tolgo il fastidio. Già ve l'ho andato, Sì, che lo dà una famiglia, se no dai. Ma lo vai, Vito, sta tornato poco. Già farato poco. Il Natale è sacro, è vero, Cugetta? Sì, sì. Natale è sacro, si fa in famiglia. No, chi lo dà una famiglia a Milano? E il Natale dove lo passò? Mo me ne vado in una trattoria e poi mi ritiro. E allora non state a mangiare con noi? Istintivamente Concetta dà una spinta a Luca. Concetta. Che finisce sulla tavola apparecchiata. Concetta, fossi scema. Gli fate la stampa. Iddio sa, soffro coi reni. Come il pranzo c'è sta, la roba assai. Stalta sì, te la faccerà, miseria. Anche tu, solo a pensare che di questa serata ve ne andate a mangiare dentro a una trattoria, ci mettete di malumore. Senza cerimonie, vedete, mio fratello ve lo sta dicendo proprio con tutto il cuore. Sì, da mio figlio, non potete rifiutare. Ma come faccio? State fuori caso, di secondo faccio. Tolgono il cappotto a Vittorio. Restate qui con me. Bravo. Cioè, mi è tenuto posto a tavola con Vittorio e resto con lui. A porta. Va chi? Tommasino corre ad aprire. Questa è mia figlia col marito. Ma ve la faccio conoscere. Ninu! Benedetta! Buonasera e auguri a tutti! Benedetta, pure a te! Avurtate il passarello! Buonasera, mamma, tanti auguri! Grazie, sai, grazie! Buon cappotto, la buon cappotto! Grazie, papà! Faceva freddo pure! Sì, parecchio, sì! Sei caldissimo! Chi se stai a posto? Pasquali, figlio tuo cappotto, faccia pazienza. Sì. O mette dentro lo salottino ben piegato sopra o divano. Vabbè, ma ci penso io, non preoccupiamo. Ma questa è roba buona. Ma ci penso io, proprio... Pasquali. Lucari. Pasquali, qua siamo arrivati alla dogana. Ecco, Maria. Luca si accorge che il fratello sta frugando nelle tasche del cappotto di Nicolino, quindi glielo strappa via. Tommasino di corsa esce dalla porta di destra portando con sé la borsa della sorella. Luca lo insegue. Tommasino rientra in camera da pranzo e si rifugia presso la madre. Concetta. Serra. Porge la borsa a Concetta, poi a gesti minaccia il figlio di spaccargli la testa. E il bancolotto come va, don Pasquali? Ah, bene, bene. Di queste giornate la povera gente gioca. Sono giornate i punti, capito? È naturale, ognuno tenta la fortuna. Ma ci siamo tutti? Sì, tutti quanti. E noi ci mettiamo pure a tavola. C'è pure un amico di mio figlio che deriva dalla famiglia a Milano. Allora l'ho invitato a mangiare qua. Ti dispiace? No, affatto. Va, siamo più allegri. Sì. Simpatico giovane. Mo te lo faccio conoscere. Grazie. Don Vito. Avete. Vi voglio rappresentare mio Gedeno. Questo è Vittorio Elia. È vero? Ho detto bene? Elia. Questo è amico di mio figlio. Questo qua, poi, quello lì, è Nicolino Percuoco, fabbricante di bottoni, quello che vi ho detto prima. Che tiene centinaia di operai, le responsabilità, tiene i pensieri. Luca si accorge che tutti sono indifferenti alle sue parole e disorientato fa un gesto al fratello. Pasquale si rivolge in disparte a Ninuccia. Non ne sapevo niente tu, eh? Non ne sapevo niente! Ah! Statta fermo, che non fai male! Massaggiandosi il braccio, si allontana. Ecco qua. State posto. È tutto pronto, eh? Concetta aggiunge un posto a tavola. Concetta, ma che è stato? Niente, Lucari, niente. No, di dica che è stato. Tu sto dicendo, ma che è stato, di? È stato. Agita un piatto in aria. Ma niente, non è stato niente. E vedi, si posso sapere niente. Non porta giù. Vieni in da cucina, vieni, ma da una mano, vieni. Mamma. Mamma, ma che è stato? Ma niente, non è mamma, niente. Ma che è stato, mamma? Scimmiotta il padre sbattendo il piatto. Ma c'è il capatore, mia grilli, avete chiesto, avete, i tambi, zassan capai. Lei. Nicolino si avvicina a Vittorio di spalle e con voce sommessa. Mi darete una spiegazione. Vittorio si gira e lo guarda con aria da spaccone. Di che cosa? Voi lo sapete meglio di me. Mi attribuite un potere divinatorio che non possiedo. Comunque più tardi ci spiegheremo. Sono a vostra disposizione. Luca è tra i due. Questi sono i re magi. Voi l'avete visto, scusate, permettete. Gaspare, Melchiorre e Baldassare. La sera di Natale li teniamo qua tutti e tre. Mangiano con noi? Eccoli! E tu sei embriato. Ma ci ha fatto la rasata. A gente casa di Remaggio, Gaspare, Melchiorre e Baldassare dice mangiano con noi. Ma... sta proprio frastornato. Certamente ha fatto questione con Ninucci. Che sei? Io me l'accuso a tutte e due, marito e moglie, fanno sempre questione. Ci volete qua. Perché lui, la ragione io la so, mangia assai. Mia figlia lo fa per bene, mo si è ingrassata, ha messo la pancia. E allora quella lo fa trovare la verdura la sera quando lui torna. Quello quando viene la verdura diventa un diavolo. Vuole mangiare forte perché lavora, poveromba. Vedi? Se ne va con gli amici a mangiare dentro le trattorie tutto quello che lo fa piacere, pasta e fagiolo, cose, eccetera, pasta. L'ha pure la moglie, perché poi ce lo vanno a dire e fanno questione. Che se, le avere date, mangiate i maccaroni, che si ha ragione, abbiamo una volta. No, no, vi sbagliate. Mai come in questo momento vedo che c'è un accordo completo. Nicolino, con una forchetta, indica uno per uno tutti i presenti, allungando poi la mano verso la cucina per includere nel novero anche Concetta e Ninuccia. Nicolino lancia la forchetta sul tavolo e si siede. Luca non capisce e fa un gesto al fratello, il quale risponde a gesti facendo intendere che forse è impazzito. A noi ci fa piacere. Come no? Vuol dire che state d'accordo, che vi volete bene, che pago trovare. Io pure faccio sempre questione con mia moglie, certe volte i strilli si sentono abbasciato guarda porta, ma poi ci vogliamo bene, parlate male mia a Concetta, ma per carità ve la fate nemica, c'è l'amore, c'è l'affetto, l'attaccamento alla famiglia, e così ho educato anche mio figlio Tommasino. Che lancia il torsolo della mela nel presepe. Ma guardalo, che fa? Ma ci bisogno di rassegna, ci bisogno. No, guardi, che c'è Stefano Mosca, c'è Stefano. Ah, no, Mosca, non c'è una Mosca, un mese dice. Ma guardalo, non è roba tua, non ti piace, che ci fai vicino al presepe? C'è Stefano Mosca, c'è Luca lo allontana. Fa questi dispetti perché lui dice che è giovane moderno, che il presepe non la piace. Ma quello vuole bene la famiglia, vuole bene il padre e la madre. È tutta la famiglia. A Nicolino, che ha lo sguardo cupo. Nicolino, quello ancora oggi, moderno, in età, quello è un giovanotto, non è più un ragazzino, quello scrive la lettera alla madre il giorno di Natale e c'ha fatto sotto piatto. E a me mi fa piacere perché vuol dire che lui per la madre ha sempre lo stesso rispetto, diciamo lo stesso amore. Aspetta. Luca torna a parlare con Nicolino sorprendendolo alle spalle. Ti sei messo paura, Nicolino? Mi dispiace, no? Mo te la faccio sentire. Tommasi. Fai sentire la lettera a Nicolino, va? La lettera di mamma. Vai. Tommasino fa no con la testa. Fallo sentire la lettera. No, non la so. Andiamo bene. Ah, conosce Nicolino? Conosce quella dell'anno scorso. Ma che è una specie che l'anno passato, hai capito? No, c'è sta quella cosa nuova alla fine, dopo. Ti ricordo. Fallo sentire, fallo sentire Nicolino, pure Don Vittorio, che la mamma sta friendo i capituni. Non sente. Io mo chiudo pure la porta. Luca, contento, chiude la porta della cucina. Così sentiamo la lettera che ha scritto. Sentite i sentimenti di questo ragazzo, i sentimenti. Luca si mette seduto. Tommasino è in piedi davanti al presepe con le mani in tasca. Siede anche lui, impettito. Ogni anno c'è, ma sembra la stessa lotteria, Asca, se non vuoi sentire la latania, te ne vai in camera tua. La soddisfazione di leggere la lettera la devo avere. Vai avanti, Tommasino, vai. Trae di tasca una lettera formata da un cartoncino diviso in tre parti, una centrale e due che si aprono lateralmente. Cara madre, eh? Tanti auguri per il Santo Natale. Si aggiusta il colletto della camicia. Cara madre. Nata voi. E questo già l'hai detto. Lasca, l'ha detto una volta, due volte, 10 volte, che te ne importa? Stai zitto, lo sai, il ragazzo ha avuto la malattia di nervi, è nervoso, guarda la gamba, guarda. La vedo. Però, vai avanti, vai. Tommasino, agitando una gamba, riprende la lettura. Cara madre, da oggi in poi voglio diventare un bravo giovine. Ho deciso, mi voglio cambiare. Preparami. A gambisa, magli e calzettini. Il ragazzo lancia un piatto ai piedi dello zio, il quale scatta in piedi. Lucari, mi ha mandato un piatto. E chi ha fatto bene? Come ha fatto bene? Chi la mamma mandava all'ospedale ha fatto buono? Naturale, ma tu non lo lascia passare uno. E cammarino, lascialo leggere, te l'ho detto, ha avuto la malattia, è nervoso. Guarda la gamba, guarda la gamba! Agitandola esasperato. Vai avanti. Pasqua, dobbiamo mangiare, piatti ce ne stanno poca, hai capito? Ho capito. Legge, che non ti curo proprio, ma metti che spallo io. Vai avanti. Dopo aver lanciato uno sguardo minaccioso allo zio, riprende. Cara madre, ho deciso. Mi voglio cambiare. Preparami un bel regalo. Questo te lo dissi l'anno passato e questo te lo dico anche adesso. E se lo dici mañana? Cara madre, che il Signore ti deve fare vivere 100 anni, assieme a papà, a Ninuccia, a Nicolino... Guardando con dispetto lo zio. E a me. Cara madre. Un momento. Cara madre. Un momento. Ma vai avanti. Un momento. Devo chiarire prima una cosa. Io ho capito la cosa che vuoi chiarire, ma è meglio che andiamo avanti. No, è meglio che chiariamo prima la cosa. Perché non mi mise pure a me nella famiglia? Eh? Secondo te io non esisto. Pasqua, abbozza. Ma che già abbuzzato? Non voglio abbuzzare, hai capito? Io sono così e mi da mettere pure a me. Ma si Pasqua, non posso. E perché non puoi? Mamma mia, non c'è spazio, lo vedi? Che già fa? Non c'è spazio. Tu tieni un foglio di carta a mano che mi pare una siloca, non c'è lo spazio. Mi a mettere pure a me nella nota della salute. Voglio. Mietta pure a me perché sennò stasera c'è un scambio Natale. Tu a capa mi non la conosci, eh? Sangra a me, mi fai a ricordare i specie antico. Mietta ma rinda nota perché sennò ti appizza la forchetta in capo. Ma tu veramente fai? E faccio veramente. Pasquale agita minacciosa una forchetta. Fai ovvero. Faccio vero. Ma allora sei scemo. E sto scemo. Si è fatto andare un giro come a quell'età che era un uomo anziano vicino a un uaglione. Dice, ma a pizza la forchetta, capizzi, Pasqua, capizzi, che mi ha trovato su. Talondero cielo, a pizza. Ma stiamo sentendo, Pasqua, va. Se quello ti mette nella nota della salute, tu hai veramente cambi 100 anni? No. Oh, e allora? E allora è per principio, va bene? Per principio. Ho principio? Naso per chiarire. Vabbè. A Tommasino. Mette anche a Pasqualino nella nota, va. Ma come faccio? Ma no, metto a Pasqualino nella nota. Ma come faccio? Ci guastiamo a Natale. Ma come faccio? Non... Metto anche a zio Pasqualino. Allora, metto pure a lui. Ma poi il Padre Eterno sa quello che deve fare. Farisei siete, farisei. Mietti 10 anni, mietti 6 mesi, non mettere niente. Non mi passa manca paga. Figuriamoci. Leva a me e mietta is. No. Mietta a padre te leva a me. Io. A me mietta 3 mesi di vita. Tommasino modifica la lettera. cara madre, che il Signore ti deve fare vivere 100 anni, assieme a papà, a Ninuccia, a Nicolino, a me, e 100 anni pure a zio Pasqualino. Però con qualche malattia. Sei una carogna sei! Questa è la proposta. La proposta, padre. Pasqualino, non dai pigliare, che lo devo bene, vogliono. La proposta. O vedete, don Vittorio, sono questa questione così, senza odio, senza rancore, diciamo senza conseguenze. Se poi ci vogliamo bene, c'è l'amore, c'è l'affetto, diciamo, la famiglia unita. E io ogni anno quando viene Natale devo fare il regalo a mia moglie, se no non mi pare Natale, mi sembra un malaugurio. 2 anni fa ci comprai un bel taglio di cappotto, se lo feci, che lo so metto stasera per andare a messa, pesante, bello. L'anno scorso si spegnerai l'orecchino che stava pegnorato, ci ho facetto trovare a tavola dentro un piatto sotto un salviette e sotto la condetta e pigliai, ma ci ho visto un'altra volta, si baciava e ci piangeva, era commovente l'anno scorso, commovente. Quest'anno ha già pegnorato l'orecchino e ci ho comprato un altro regalo. Mo ve lo faccio vedere, mo ve lo faccio vedere. Lucarino, mo va a capigliare pure un regalo mio, ce lo voglio far vedere. Da Luca, non fa sentire, mamma. Mo va a capigliare pure un regalo mio, lo voglio far vedere. Pasquale esce dalla porta centrale e Luca da quella di destra. Rientra con un oggetto stretto e lungo incartato. Silenziosamente si avvicina a Vittorio. Vittorio. Questo è il regalo che ho preso a mia moglie. Aveva perduto ombrella e io ce ne ho comprato un'altra, ancora più bella di quella che tenevo. L'ho presa da un negoziante, amico mio di tanti anni, me l'ha consigliato. C'è il fusto, questa è eterna, la seta speciale, senti. Sì. Questo qua poi, voglio, questo è legno di rosa. Questo qua. È forte. Bello. Nicolì. Il manico poi è corno vero e questa è partita sua, quando tu te ne intendi, è vero? Sì, sì. Guarda, tocca. Lucarino, bella qualità. Questo è il mio regalo. Ti piace? Sì. Una borsa nera. Io ho già pensato pure come ce lo dobbiamo regalare. Sì. 2 minuti quando mi metto d'accordo con mio figlio e mio fratello per una sorpresa a mia moglie e poi sono a voi. Tommasì. Luca si apparta con Tommasino e Pasquale. Nicoli, mentre parliamo, dentro a credenze ci stanno un mazzo di carte da gioco. Fatevi una partita voi due, stanno senza fa niente. Sì, l'idea mi è venuta quando sono andato a comprare i remaggi. Sì, quando il concetto si mette a tavola... Sì. Ci presentiamo come i remaggi che portavano i regali al bambino Gesù, che portavano oro, incenso e mirra. E io ho pensato pure come devo dire. Sì. E dico, tu scendi dalle stelle, Concetta bella, e io da Gioverta. Da questo ombrello. Bellissimo. Sì. E io poi dico. Aspetta, che dico? Tu scendi dalle stelle. E so di chi? Oh mia Concetta. E io da giù cumbra. Oh, sto aspetta. Ci spassano. Io che dico? Chi a ricere? E dico niente. Quella tua madre lo sa che tu soldi non ne tieni. Tu vieni appresso e fai tararararararara. No, ma non lo voglio fare. Sì, tarà, è bello. Voglio buttare la borsetta e ci faccio lì, la borsetta mi. E tu lascia la borsetta, la borsetta è aso. Luca ha rivolto al figlio. Tu fai una cosa nuova, hai capito? Tu la lettera la metti dentro un piatto e ce la porti con 4 fico secco, 4 noci. Vieni! Che è stato allora? Che è? Papà, se ne è scappato un capitone che t'avendo tagliato. Ma... sapeva che era. Ma mamma va fuori un capitone, tu state cagando vicino a fucolari, corri! Cosa hai senza? Senti una mamma, si è fatto male. Mamma, non c'è, che ti hai fatto? Mamma, vi siete fatti male! Mamma, sai, mamma, vi siete fatti male! Donna Concetta! Nicolino, la seggia, papà, la seggia! La seggia! La seggia! La seggia! La seggia! La seggia! La seggia! La seggia! La seggia! La seggia! Non può capire, non può capire. Ci vuole un aiuto in cucina, tu certe cose non ne può fare più di un età, lo vuoi capire se non leva sta mano? Guarda qua, guarda. Concetta ha un bozzo sulla fronte. Quello invece essere qua, era qua, voi ce ne è parlato, ma non se ne è. Mettete che stia. E ogni anno combina, ogni anno. Aspetta. Ninuccia avvolge un tovagliolo attorno alla testa della madre. Si deve stringere. Dai, ma fai male, ma che mani. Sa da stringere, esce un bomboi, capisci? Ho capito, non hai da affrontare. Ma che se ne aiuto sotto a focolare, mi è zia Carbo. E chi la capisce, non è morto. Ma muovo, che fa con me? Prima si prima a fare. Andiamo a poverino. E lo farà scappare. Sotto a granella. Sotto a granella. È caduta la granella. Pasquale rientra con un fazzoletto sulla fronte. Luca zoppica. Questo è un cavallo, questo. Mi ha dato un calcio vicino al ginocchio. Mi ha fatto per le stelle, ma mi ha fatto per. Si siede. Un capitone ha trovato la finestra aperta, si è menato a bascia. Mettete qua a tavola che hai pagato in dai cucini. I muli si lavano un momento in mano, si fa scalì. In dalla camera mia. C'è sta pure un sapone, asciugamani, vieni in dalla camera, non ti preoccupare. Grazie. Io pure mi voglio lavarsi in mano, che mi vengo. Via. A te. Andiamo bello, ma a tavola con le mani pulite. E sono pulite. E sono pulite, cammi. Convito, senza cerimonia, se vi volete lavare le mani, c'è tutto. Grazie, non c'è bisogno. Non c'è bisogno, eh? E vabbè, mo ci vediamo, permesso. Vieni, fa compagnia a Don Vittorio, noi mo veniamo. Escono tutti, rimangono Vittorio e Ninuccia. L'uomo controlla che non ci sia nessuno ad ascoltare. Chiude la porta della cucina. E si mette alle spalle di Ninuccia, palesemente a disagio. Io non volevo rimanere. È stato tuo padre che ha insistito. Lei si volta a guardarlo. Si rigira scocciata. Ma io me ne posso pure andare. Ninuccia si allontana. Vittorio la segue. Ninu, me ne posso pure andare. I due sono viso a viso. E adesso sarebbe peggio. E io ho capito perché tu agisci così. Tu vuoi fare succedere quello che non deve succedere. Lui si guarda attorno e si accosta sempre più alla ragazza. Hai ragione. Ha visto la lettera. È di mia madre. Vuole sapere perché non vado a passare il Natale da lei. E perché non sei partito? E me quando parla così mi faccio risa, fa cose pazze. Vittorio le accarezza una spalla. Ma insomma, per te non sono niente più. Lei lo guarda intensamente negli occhi. Lui ricambia. Vittorio, io non so ci stesse cacciare riuscire. Si abbracciano. Alle loro spalle arriva Nicolino, che si avvicina ai due staccandoli dall'abbraccio. Tu si nommi niente. Gli dà uno schiaffo. Ninuccia lo sorregge. Carogna, scinnabascia. Muoia scendere, vi muoio. E quando scendere? No, Vittorio, non scendere. Non ti va bene, moglie, non ti va bene. Ti mi sa a tavola, grazie a Dio. Ma ti mi sa a tavola. Avrete cane, figlia vostra, avrete. Difendo un innamorato suo. E voi sapevo tutta cosa. Ruffiana! A me? No, no. Scendi! No! Che devi facermi con troppo? I due uomini escono di corsa. Mamma, che le s'accirano? È figlia mia. Mamma, s'accirano. Mamma! Mamma, se muove, mamma! Nicolì! Esce correndo. Concetta piange coprendosi la faccia con le mani. Madonna mia. Entrano Luca, Tommasino e Pasquale vestiti da re magi con indumenti di fortuna. Tu scendi dalle stelle, agitando tre stelle filanti accese, si inginocchiano davanti a Concetta e depositano i doni ai suoi piedi. Luca reca l'ombrello, Pasquale la borsetta e Tommasino il piatto con la lettera. Sul volto allucinato e disperato di Concetta si chiude il sipario. Fine del secondo atto. Atto terzo. Si apre il sipario. Di nuovo la camera da letto del primo atto, tre giorni dopo quella disastrosa vigilia di Natale. Luca è a letto, quasi privo di sensi. Concetta siede a destra, addormentata sulla poltrona, circondata da donna Carmela, Olga e la signora Armida, tutte amiche del palazzo che evidentemente l'hanno confortata per tutta la notte. A sinistra, seduti sul letto di Tommasino, si trovano Rita, Maria e Alberto, anch'essi coinquilini volenterosi e solidali. Mentre le donne raggruppate a destra parlano sommessamente dell'accaduto, il gruppo di giovani a sinistra bisbiglia qualche cosa di superficiale e generico. Con la schiena sostenuta da qualche guanciale, Luca Cupiello si è da poco appisolato, sorride con gli occhi chiusi. Cerca di tirare su il braccio sinistro, ma il braccio scivola giù. Dalla porta di fondo appare Raffaele, il portiere. Reca una guantiera con sei tazze spaiate, cucchiaini e piattini. Avanza con passo accorto perché ha sul vassoio una caffettiera colma di caffè. Questo l'ho fatto fresco. Stiamo andando avanti a caffè. Proprio. Ma chiamate vostro marito da sopra la finestra da cucina. Che vuole? Non ho capito bene, perché proprio in quel momento stava girando la caffettiera. Ha detto che adesso scende. Si rivolge a Concetta. Nonna Concetta, tu sei il caffè. Poi un poco di caffè ve lo dovete prendere, sennò come vi sostenete? Pigliata, vi fa bene. Caldo. Raffaele muove verso il gruppo di sinistra, lo raggiunge e serve il caffè. Piccere, pigliatevi un po' di caffè. Io se non mi piglio un po' di caffè, ma dormo all'erdo. Aspettate, questo c'è un dama Don Pasqualino. Mi rispetto. Pasquale guarda fuori dalla finestra. Anche a lui versa una tazzina di caffè. Raffè, porta altre due tazze. Vado e piglio. In la cucina tre ce ne stavano. Due le ho messe io, perché tu non tenevi. Bevi qua, tanto io ho finito. Raffaele riempie di nuovo la tazza offerta da Alberto. Aspetta, bevo prima io. Arriva Luigi, il marito di Olga, un uomo da bene sulla quarantina. La porge alla moglie. Prende una tazza di caffè. Raffè, che è a me? È finito. È finito. Quando va a fare una macchinetta piccola per lui. Vabbè, ben presto. Grazie a te. Raffaele esce. Parla Luigi. Ma da passa, signor pastore. Ieri è venuto il dottore. L'ha guardato e ha fatto una brutta faccia. Ma la notte come l'ha passata? Come era passata? Chiamava Nicolino. Voleva Nicolino. Ha fatto un arto. Carmela. La verità, gli tengono un buono presentimento. Sì. Ieri sera Don Luca stava peggio. Stava veramente male. Ma invece adesso riposo. Carità, nonna Carmela, come riuscite? A me Lucariella non me la conta giusta. Perché? Che lo braccio sinistro, vedete, non muove più. La lingua si è tirata tutta quanta. si capisce niente, non si capisce. Luigi. Donna Concè, ma riconosce. Qualche botta sì e qualche botta no. Ieri, ieri mi sono avvicinata al letto. Già giurita, Lucari. Scoppia in lacrime. E che oggi non ha concesso per te. Se sei la donna è peggio. Ciao, giurita, Lucari. Guarda, sono che Concetta tua mi riconosce. Se mi ha guardato un po', mi ha fissata e poi mi ha detto, ah sì, tu sei Don Basilio. E chi è Don Basilio? È rimasta impressionata, perché da 20 mesi le paillette mi ha sangato. E ti mi ha sentito il barbiere del trovatore. Ci regalano certi biglietti. Poi, che lo vermo pare Don Basilio. E che cos'è? No, Alberto è rimasto senza caffè. Ninuccia entra con una scodella di brodo fumante. Reca sul volto i segni inconfondibili di un dolore profondo. Mamma, ci volevano poche parole bulle a papà, sì. Caldo caldo. No, a mamma e dice se lascia la stanza. Che lo ha pigliato su. Papà lo magari. È meglio, lasciatelo riposare. Quando si sveglia glielo riscaldato un'altra volta. Il dottore quando deve venire, il dottore. Ci avessi avuto a staccare. E Tommasi? E che ti affana tutte le gran manicoline. Ma mi vorrete venire. Io me ne dovrei scappare. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Olga! Io me ne scappo. Ma torniamo, po'. Sì, lo so, ma io volevo aspettare che si svegliava Don Luca. Allora aspetta. Aspetta. Aspetta. Che faccio? Aspetto prima che si svegli Don Luca e poi me ne vado, va bene? No. Nino, Nino, ho si contenta, ma ti ricordo a questo posto nuovo ti ho detto, giurami che fai pace con tuo marito e che fornisci tutte cose. Hai visto? Hai visto che hai fatto succedere? Hai visto? E non mi dicite più. Ninuccia, avvilita, si avvicina al letto del padre, vi sale sopra e si accosta a lui. Luca ogni tanto apre gli occhi, allo sguardo perso, cerca di alzare il braccio sinistro, che però gli ricade pesantemente sul ventre. Ninuccia lo abbraccia. Quello poteva mai immaginare che succedeva quello che è successo. Ah, donna Carmela mia. Ha dovuto a capa tosta. Tosta, ma ha dovuto che la e siccome a Lucari non ci ha fatto sapere mai niente. Ma ancora Dio mai. Ma capirete, con fatta di 3 sere fa, è stato come una mazzata. Il capo Carmela, capisci? Si sono detta male, povero. E subito si va a mettere in torretta. E mo sta giù alla cacca. Signora. E chiama Nicolina. Boa Nicolina. Tanto sono 3 telegrammi che mi ha fatto. E Nicolina non si vede. Donna Conce, ma perché il marito l'ha lasciata? È ovvero. Immediatamente. Se ne è andata da certi parenti a Roma e ha detto che non la vuole vedere. Concetta si asciuga le lacrime. Luca ha un sussulto, si guarda intorno con lo sguardo perso. Ninuccia lo consola. Beh, io me ne scappo e non mi trattenete. Olga, la vista scappare. E che aspetta? Se te ne devi andare, vattene. Sei sempre l'eterno indeciso. Lo so, ma mi pare che devi varicere una cosa. Sentiamo, che mi varisce? Ma non mi ricordo. Non si ricorda. Ah. Se vuoi tornare dopo, io faccio un poco di pasta al buffet. Vabbè, figurati. Donna Concè, scusate, io rimarrei ancora, ma devo mostrare il mio campionario a un cliente. Ma che se non porta il suo cliente? Oh, che quello viene da Milano. Che lo stai che la maniera, penso un milanese. Calma, calma, calma, calma. No, vai, Luigi si avvicina al gruppo dei giovani. Dal fondo arriva Tommasino. Fila diritto verso sua madre con una moneta tra le mani. Mamma, che sei oriente. Mamma, papà come sta? Papà sta riposando un poco. Non ti fa sentire a mamma, hai capito? Concetta gli dà un bacio. Tommasino va a sedersi rispettosamente ai piedi del letto accanto al padre. Sta proprio la creatura. Avete visto che faccia il casato? Non si riconosce più. Capirete? Sono 3 giorni e 3 notti che sta vicino a che l'Urietta. Non sa più che fa, perché lo padre non sa più che fa. Scala la palazza e va 30-40 volte al giorno. A tuo dottore, a farmacia, a tuo dottore, sueggio. Si porta il fazzoletto al volto per nascondere il pianto. Il mio bello. Core, mamma d'ori. E ti chiede il carocchio di favore! Zitto, ma con c'è per carità. Sentite, io me ne scappo. Arrivederci. Arrivederci. Olga, non mi dire niente, ma io me ne scappo. Battenta. Nicolina, svegliato. Tutti si alzano in piedi e si muovono avanti e indietro, creando confusione nella stanza. Cosa vi si è venuto da Nicolino? Sempre con Nicolini, ci pare. Muoveno, Lucari, muoveno. Papà, iamo, pigliatevi su poche bruri. E che c'ho dai freddo, bro, a papà, va la riscaldare, va. Papà. Pigliata va bevanda. Un signore, o dottore, ha detto ognora un cucchiaio. E mo è passato, no? Non, signore, ce vuoi tempo. Statta zitto tu. Io sono il fratello e posso parlare. E mo verimmo. E mo verimmo. Papà, pare che sto momento va a piccicare. Che schifo. Ma non c'è. O dottore, meno male, va. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Dottore, aspettavamo con ansia caffè o dottore. Ah, grazie, lo prendo volentieri perché stamattina sono uscito in fretta. Accomodatevi, Raffaele, mi sta da tazzo per mio figlio che l'ha fatto 3 nottate, voglio. Mo scende, mo baga figlio bar. E ha riposato stanotte? Ma che, dottore, ci ha tenuto svegliare tutti quanti. Ecco qua, questa è la febbre che ci avete fatto segnare. Ah, sì, datemi. Vedolo, come andiamo, eh? Voi state una bellezza. Così spero sentire di voi. Luca fissa il dottore. Nicolino! Tutti i presenti circondano il letto di Luca. Ma qua c'è sta troppa gente in questa stanza, ve l'ho detto anche ieri, donna Concetta. Questi signori sono venuti da poco. Io ho fatto compagnia a donna Concetta. No, gli togliete l'aria. Usciamo. E mi va a pigliare una tazza di caffè al bar. Escono tutti dalla porta di fondo. Olga, sei compensato? Ma senti, prima il dottore che dice e poi me ne scappo, vabbè? Olga. Oh. Escono anche loro. Entra Ninuccia recando di nuovo la scodella con il brodo. Il brodo? Ci dottono poche brodo di pollo. Dopo, voglio prima visitarlo. Ti raccomandate. Concetta avvicina una sedia al letto. Vediamo un po'. Il dottore si siede. Prende la mano di Luca e gli tasta il polso. Concetta, le mani giunte al petto, segue il controllo medico con apprensione. Il medico si alza per osservare gli occhi di Luca. Concetta, alle sue spalle, allunga il collo per vedere meglio. Poi, sconsolata, distoglie lo sguardo portandosi una mano alla bocca. Il dottore solleva il lenzuolo e trova una scarpa. Donna Concè. Le consegna la scarpa. Scusate, dottore. Concetta è mortificata. Donna Concè. Che? Trova un'altra scarpa sotto il lenzuolo. Ah, pure che è stata, scusate. Non capisci che scarpe rindori. Le ha nascoste, se no il figlio se le vende. E addirittura. Eh già, Ivo mi veniva le scarpe e papà. Ma perché ti metti paura di vendere le scarpe tuo padre? Io ti vendo tutta scarpe. Roba. Ma mia. Ma dove vai? Tutta roba mia, tutta roba ragazza. Il dottore. Bene, bene. Ascolta il cuore di Luca. Andiamo meglio. Ma vero dottore, andiamo meglio. Andiamo meglio, sì. Madonna mia. Bacia la statua della Madonna. Madonna mia pelle, ti ringrazio. Lugari. Lugariello. Lugari, hai sentito, dottore Gait? Andiamo meglio. E che re? E non dice niente, guardate. E cacciari, c'era l'altra volta quando stava malato, parlava sempre, se parlava. E non dice niente, non dice. E Lugari, guarda là chi c'è sta. A vedi chi c'è sta, c'è sta quella bella faccia di Pasqua, che è una Carmela. Allora, ma hai conosciuto? E Lugari? Lugari, racconta a donna Carmela. Ho fatto i fagioli. E qual è sto fatto i fagioli? Amo, volete far sentire da Ovrete con marito. Un gesto mi fa contare sempre fatti i fagioli. Ho fatto tanto anno fa. Le cose. Ma il culino quando era? Muove, coro mi muove. Ma raccontateci al primo fatto dei fagioli, me. I fagioli. Mi si dai con un poco di febbre. Di febbre, un po' di febbre. Un certo gli altri, io chiamai il dottore. Io tu aspetta, guarda, sono denari a buttare, io domani non tengo niente più. E no, gli altri, un certo, io chiamai il dottore, no? Poi per la pubblicazione, e poi è peggio, ma vabbè, e chiamo, quasi metto una cosa a capo con gente. E tu, fece la visita, e tu, ma questo, come hai detto? Dicette, questa è una cosa viscerale, non deve... No, cioè, è una cosa viscerale, non devo mangiare. Se mangi, non vi posso la febbre. Quel giorno, quel getto, ero cattivo, fagioli la pasta, i fagioli li fa bene, a due le pasta e fa su, per tutta la casa, che fu a lavoro. Io dicette, oggi, ma come, proprio oggi, io mi sento tanto bene, tu hai fatto i fagioli la pasta. E cioè, come ti permetto? Io ho fatto un brodo, e diciamo che io facciamo un brodo a me, non mi so. E allora, senti, tutto questo addore di pasta e fasole che si sente per la casa, ma io, chi l'ha fatta la signora Rimbetta? E di gelo, la signora Rimbetta che mi mandasse un biattino, anzi, magari facciamo tanta attenzione a loro perché non l'ha fatto, deve stare giù, il dottore, quello se ne accorge che hai mangiato, che figura fai, sei un uomo, da capo amici, e tu quando stanotte parlavo, io sono tremendo, che sono io? È tremendo, Lugari, sono tremendo, non ne metto una cosa ancora. E poi a notte, con sette avevo preso il sonno, io mi alzai, e ti dà così, che io sazio, quando si fanno i fagioli con la pasta, in casa mia si fanno che bastano per tre giorni. Tre giorni? No, sì, tre giorni, dice, perché ci piacciono scalfate, poi anche fredde. A te, fredde, per merenda, si fanno anche per merenda. Io ti da la cucina, ma se stai vicino da lì, gli avevo cucciato, mi tirai a zuppire, che era bella, vieni, vieni. E dunque dentro l'agra, Ma pensavo non devo neanche un po' di febbre. Cioè, mi si dà fresco, fresco, come mi si dà? Fresco. Ma è tuo scienziato, senti, fresco, e mangiare, non devi passare la febbre. Dai, che ciuccio. Beh, io me ne vado, Ho delle visite importanti oggi. Dottor, vi accompagno. Dottor, come sta mio fratello? Come sta, papà? Non bisogna disperare, Certa batosta l'ha avuta è piuttosto pesante, ma io ho visto dei casi anche peggiori che si sono risolti abbastanza bene. E speriamo. Ma domani venite. Non lasciali che venga a fare domani. Dottore. Su, fatevi coraggio. Fatevi coraggio, principalmente fate coraggio alle donne. Dottore, voi che dite? Solo un miracolo, ma non ce la può fare. Su, se avete bisogno di me mi chiamate. Oddio, arrivederci. Oddio. Su. Don Lu, state per buon. Arrivederci, buongiorno. Buona giornata, signore Vaccumbati. Minuccia, io sì. Mamma, a me una mano alla stittazza mia, se che mi che bene è andata a voto tutto che la gente. Ma mi do una mano pure me. Una Carmela mia, che scostumata, in tre giorni sono su andato 2,5 chili di caffè. Vi capisco benissimo, tant'è loro. E chi la per questa vena? Sì, mamma, mo c'ho di chi però, Fate bene, lo levano l'aria a chi lo può venire. Oh, che diavolo. Vittorio appare sulla porta. Donna Concetta. E voi che fate qua? Donna Concetta, non me ne cacciate. Andatevi. Voi non sapete da tre giorni quello che sto soffrendo. Andatevi. Lo so. Tutta la colpa è mia, ma credetemi, mo ve la ritrovate sottoterra. Sono tre notti che passeggio sotto il portone. Mo è sceso il dottore. Volevo baciare la mano a Don Luca. Donna Concè, non mi negate questa grazia. Luca afferra il braccio di Vittorio. Nicolino! Cos'altro? È venuto Nicolino, hai visto? Ha visto, bravi, Nicolino, piacere che mi hai fatto. Quando tu vanno dicendo, quello di Nicolino non viene, ma io ero sicuro, Io va bene a me, Nicolino va bene, deve fare un uomo, non deve sentire la gente cattiva a voi male della famiglia. Minucci, adesso Minucci. Sto qua, papà, sto qua. Minucci. Ecco così. Prende la mano di Ninuccia e la unisce a quella di Vittorio. Fate pace, giurate che non vi lasciate più. Giurate. Buongiorno, Nicolino. Non ce l'hanno fatta mai. Don Nicolino. Buongiorno, mamma. Nicolino furente vorrebbe scagliarsi contro Vittorio. Tutti insieme riescono a portarlo via. Voi siete nati l'uno per l'altro, dovete stare sempre assieme, non dovete mai lasciare, dovete stare in pace e non dovete dare dispiacere al cugetto. Povera donna, la ha sofferto assai, povera donna. Vai, Basilio. Vai. Tommasino, sprofondato nel suo dolore, si avvicina al padre. Luca mostra al figlio il braccio inerte, lo solleva con l'altra mano e lo fa cadere pesantemente. Ripete il gesto. Piaggio, per esempio. Tommasino fa sì con la testa. Piaggio. Commosso, afferra Tommasino per il bavero e sprofonda il volto nel cappotto. Sempre è bello, per esempio. Luca disperde lo sguardo lontano. Bello, per esempio, io sono bello. Dalla finestra filtra la luce dei fuochi d'artificio. Vittorio è di spalle sulla porta di fondo. Pasquale guarda fuori dalla finestra. Ninuccia è accovacciata sul letto e Tommasino è in piedi, affranto, accanto al padre. Si chiude il sipario. Adesso su. Siamo all'interno del palcoscenico. I personaggi tornano attori. Di fretta lasciano le posizioni che avevano alla chiusura del sipario per schierarsi in proscenio. Al centro, Edoardo De Filippo. Si apre il sipario. Gli attori avanzano di un passo e si inchinano al pubblico. Edoardo si stacca dalla fila e alza le braccia come a voler stringere a sé tutto il teatro. Gli attori alle sue spalle si inchinano nuovamente per ringraziare. Il sipario si chiude. Tutti gli attori abbandonano il palcoscenico. Termina qui Natale in casa Cupiello. Tre atti di Edoardo De Filippo. Audiodescrizione di Maurizio Fei e Barbara Marsala. Voce narrante di Valerio Sacco. Personaggi e interpreti in ordine di apparizione. Concetta, Pupella Maggio. Luca Cupiello, Edoardo De Filippo. Tommasino, Luca De Filippo. Pasquale, Gino Maringola. Ninuccia, Lina Sastri. Nicola, Luigi Uzzo. Raffaele, Franco Folli. Vittorio, Marzio Onorato. Carmela, Linda Moretti. Olga, Marina Confalone. Rita, Marisa Laurito. Maria, Lidia Ferrara. Alberto, Bruno Marinelli. Armida, Maria Facciolà. Luigi, Sergio Solli. Il dottore, Antonio Laraina. Regia di Edoardo De Filippo.